a Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Son volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Mi piace di doverlo dire, ma nel Milan, molto importante in ogni squadra di calcio, nel Milan assolutamente, è molto importante l'aspetto umano, certo, della persona. E se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, così si usa dire, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo per vicende della vita di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Il bello è, caro Parenzo, che con Berlusconi tutto è possibile. Il mondo è colorato di ogni colore. E i colori possono cambiare da un secondo all'altro. Questo diceva Berlusconi su Balotelli l'8 gennaio, solo l'8 gennaio, ma non del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, bensì di quale anno? 2013. Del 2013. Ma quanto vale Balotelli in termini elettorali? Boh, qualcuno dice due punti, qualcuno dice uno, qualcuno dice nessuno, secondo me nessuno. Questa metafora che lei ha fatto sentire poc'anzi, della, perché da oggi le do del lei, della mela marcia, della sì, mela marcia che infetta, sì, vale anche per caso per alcuni candidati ancora impresentabili presenti nelle sue liste? Punto di domanda. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con la notizia del giorno: Balotelli al Milan, cari ascoltatori, per 20 milioni la mela marcia entra dentro lo spogliatoio. È vero che Berlusconi, aspetta un attimo, è vero che Berlusconi poi chiese scusa di questa cosa il giorno dopo, però insomma. Ora, questi Montiani, ciao, tu li conosci? Dennis. Tu li conosci, Montiani? Ciao, sto parlando al telefono con Verdini, scusami un attimo. Sì, ciao, ma li conosci i Montiani tu? I Montiani. Sì, ne vedi in giro? Ne vedi in giro? Cioè, non è che per strada stamattina, quando ero a Prati, vedevo persone che si fermavano dicendo: salve, io sono Montiano. Sì. I Montiani devono smetterla di incazzarsi per la bellissima parodia di Crozza, perché sì, mi pare che veramente stanno superando ogni limite dei politicanti della vecchia maniera. Ma non hanno un minimo di ironia, tra l'altro. Non, proprio zero. Zero totale. Sentiamo per esempio Andrea Romano, sai, quella persona molto seria. No, Andrea Romano è una brava persona. Ma sì, vabbè, ma non ne frega niente, brava persona, brutta persona. Andrea Romano, no, dice una Crozza, brava persona, uno storico importante. Ma chi se ne frega? Crozza più ricco di tutti noi. Ma che vuol vabbè, dire sì, che Crozza è più ricco di cosa loro? Sì, perché siccome Crozza ha fatto la parodia dei Montiani, tutti ricchi, che il meno ricco possiede la Kamchatka, no? Adesso se la pigliano con Crozza. Ma è una parodia, Andrea Romano, su! Mi verrebbe da dire non che ce l'ha la sono convinto che Crozza sia certamente più ricco, non solo di me che ci vuole poco, ma anche più ricco della grandissima parte dei candidati di Scelta Civica. Vorrei vedere la sua dichiarazione dei redditi, che mi auguro sia consistente, insomma. Ma ti rendi conto o no? Ma l'ha detto all'aria cari... che tira della signora Merlino, l'ha detto, sì, no? Ma cari Montiani, state tranquilli, state calmi, fatevi pigliare per il culo da Crozza, ma qual è il problema? Si parla di voi, abbiate pazienza, mi mettete pure a fare polemica. La signora Borletti Buitoni, certo, il cognome non aiuta, è invitato. Non aiuta ad andare in periferia con quel cognome, non aiuta. Non aiuta andare a Baggio, non aiuta andare a Baggio, al Tuscolano. All'Asca Laurenzia, non aiuta. Si chiama H, non c'entra niente, comunque vabbè, non sai nemmeno pronunciare i quartieri di Roma. H Laurenzia. Ma no, ma stai tranquillo, stai tranquillo. Come ma lascia perdere, Borletti Buitoni. La signora Borletti Buitoni, buonasera. Volevo sapere dov'è l'H Laurentia. La Borletti Buitoni, senti su Crozza, senti. La differenza tra Maurizio Crozza e la dottoressa Lidia Wender è che lui è pagato molto per fare il comico e la dottoressa Wender è pagata poco per fare il medico e salvare delle vite. A parte che parla come Agnelli. Guarda, anche la voce non aiuta oltre al cognome, no? Guarda, volevo sapere questo quarto giao, questo quarto giao, quarto giao. Che cos'è un parcheggio? Cos'è il quarto giao? Quarto giao. Senti ancora. Poi dopo parleremo di quel Crozza, l'ha visto lei? L'ha visto? Io sì, l'ho visto e ho pensato che se io sono Moira Orfei, lui è Yul Brynner, ma insomma, certo, l'ho visto. E va bene, poi siamo al top, poi andiamo al top. La Borletti Buitoni, però il primo era significativo di come dell'accento, era uguale all'avvocato Agnelli. Allora, il top però è Scanzi versus Mussolini. Andrea Scanzi oggi, insomma, ha fatto il giro del web. Andrea Scanzi che a un certo punto attacca Mussolini. Merlino, sì, attacca. Ma che c'hai con sta Merlino? Sei fissato con sta Merlino? Andrea Scanzi contro la Mussolini che se ne va. La Mussolini uscendo dà della testa di cazzo. Partiamo dalla fine. Allora lei non parli... la mettiamo però sul familiare, abbiamo detto parliamolo sul familiare. Deve parlare con rispetto delle persone che sono qui, soprattutto di Benito Mussolini. Non ho alcun rispetto, cara signora, alcun rispetto. No, ma per favore, sì, devo stare qua a sentire questa grazie del testa di cazzo. Io rispetto Diego Betti, di Matteotti e di tutte le persone che sono state devastate da suo nonno, di sicuro non di lei o di suo nonno. Va bene, mai c'è un tigre dietro il cespuglio che aspetta. Ovviamente il testa di cazzo della Mussolini è diventato una sorta di refrain di culto quasi ormai. Testa di cazzo, perché lui dice non ho rispetto di suo nonno, poi aggiunge anche non ho nemmeno rispetto di lei. Forse questo si poteva evitare, eh? Vabbè, ma chi se ne frega. Siamo qui con un grande ritorno della politica, caro Parenzo. Krugman finalmente. Ma Krugman non è mai stato in politica prima, cioè che c'entra? Non è che un politico ha invitato? Uno faceva il politico, è andato via 10 anni fa, 12 anni fa, adesso torna. Ma ha fatto politico occupando uno scranno molto alto, uno scranno grandissimo. La Malfa non ha mai occupato nessuno scranno alto. Sì, è stato ministro. Ho capito, l'ex presidente del Senato. No. Irene Pivetti, buonasera. Ottimo. Buonasera. Come sta? Brava persona, signora Pivetti. Allora, posso dire un po' ironicamente, lei è stata della Lega, poi se n'è fregata per un po' della politica. Anzi no, prima della Lega, anzi dopo la Lega ha fatto un passaggio col signor Dini, se non sbaglio, signor Dini. Poi anche con Mastella, poi a un certo punto se n'è fregata della politica, ha fatto spettacolo, ha presentato programmi, è diventata giornalista e adesso io dico, uno può tornare in politica col signor Baccini? Con tutto il rispetto, con Baccini. Lei è stata con Bossi, presidente della Camera, poi Dini, Mastella, tuo personaggio, adesso il signor Baccini. Sì, effettivamente è difficile citare. Sono stata con Bossi, poi dopo, quando uscì dalla Lega per via della secessione, che ovviamente io non condividevo, fondai un movimento che si chiamava Italia Federale, che fece effettivamente alleanze con Dini e con Mastella, in tempi uno dietro l'altro, ma momenti successivi. E dopodiché è vero, sono diventata giornalista professionista, ho fatto televisione e adesso è il momento con i Cristiano Popolari. Io divento pazzo per certe cose, poi non so perché. Sì? No, divento pazzo per certe sigle, non solo di Cristiano Popolari, per carità. Questa è sigla. Comunque mi fa piacere, così lo dice così scandito, così sarà più facile da ricordare. Sì, ma sicuramente. Senta un attimo, ma lei ce l'ha ancora il famoso ufficio alla Camera che noi le facemmo anche, contribuimmo alla sua defenestrazione, ci perdoni, con quella intervista? No, che... per carità, no, ma l'ufficio è stato tolto a partire dalla fine di questa legislatura. Ingiustamente, dice lei, ingiustamente. A seguito di questa decisione dell'ufficio di presidenza che per risanare il bilancio dello Stato in pratica ha tolto soltanto l'ufficio a me. Beh no, a lei è un altro ex presidente, se non sbaglio. In grau, infatti. Solo a lei, cioè, hanno fatto fuori solo lei come ex presidente della Camera, dai benefit, i famosi benefit. soltanto da cioè lei cosa è rimasto? Cosa è rimasto di benefit di ex presidenti della Camera? Nulla? Nessuno, anche perché tra l'altro non c'era altro, cioè io comunque non ho goduto mai di alcun'altra benefit, come li chiamerei, insomma, non c'è mai stata. Vabbè, c'era una segreteria lì, c'era qualcosa lì, no? Sì, c'era l'ufficio con la segreteria. Cioè, tolto l'ufficio, via. Non... Basta. Ma scorte, ce n'erano scorte? No. No, non ce ne sono mai state in verità, cioè ci sono state le scorte quando ero presidente della Camera di Carica, certo, dopodiché certo. Basta. E anche se poi sono stato favoreggiato di queste scorte che in realtà non ci sono. Sì. E a me dispiace, devo dire, come ho anche citato in tante altre circostanze, non dispiace per me, a me dispiace per queste persone che alla fine per risanare il deficit pubblico hanno perso il lavoro. Licenziate, esatto. Perché collaboravano con lei? Perché collaboravano con lei? Cioè, praticamente lei sta dicendo che qualcuno ha messo per strada 3-4 persone. Esatto. Scusate, ma lei ha dichiarato recentemente di essere. Ovviamente si presenta alla Regione Lazio come capolista dei Cristiano Popolari. Sostanzialmente i Cristiano Popolari sono alleati con Berlusconi. Lei ha detto di essere imbarazzata da Berlusconi, cioè da tutte le vicende sue personali, il caso Rubbia. No, perché la domanda è l'imbarazzo il caso Rubbia. Ho detto certo che mi imbarazza, però per fortuna in Berlusconi c'è anche ben altro che il caso Rubbia, insomma. E peraltro io non sono come dire, il programma politico e l'iniziativa politica, e soprattutto il momento di prendersi una seria responsabilità politica va per fortuna. Ma perché torna sì, perché torna a fare politica? È una cosa pazzesca. Uno torna, ma lasci perdere, cioè, ma torna in questo guazzabuglio, un casino, la chiamano. Se era facile, non era interessante. Vabbè. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un passo da re. Dove sei, ma dove 0024, caro Parenzo, con Irene Pivetti, ex presidente della Camera, adesso candidata nel Lazio come capolista. Volevo salutare l'onorevole Pivetti, abbracciarla e chiederle proprio un giudizio. Lei, che è una persona cattolica, coerente con tutte le scelte che ha fatto, è questo da dirlo. Anche se è separata, separata. Quelle sono fatti privati. I cattolici, i cristiani sono molto attenti. Non c'entra niente. Volevo però chiedere un giudizio. Parliamo pure anche di questa cosa. Io non ho alcun imbarazzo, anche perché l'ho detto pubblicamente. Mio marito ha scelto di separarsi. Ora posso io contro la sua volontà. Cosa posso fare? No, per carità, no, ma era una battuta. Io ho dovuto, no, però siccome non ho alcun imbarazzo a parlarne, e lo capisco, è un fatto che è diventato anche pubblico. Lui ha scelto la separazione, ora o si ama o liberamente o non no, si ama. Ma io si non figuri, certo, no. Obbliga. Ho preso atto di una cosa che non è stata una scelta. Scusi un attimo, mia. Ma a proposito, volevo capire se secondo lei Berlusconi è un buon cattolico dal punto di vista anche dell'estetica politica. Io non sono il suo direttore spirituale, quindi per fortuna non tocca a me esprimere giudizi né su di lui né su nessun altro. Quindi il tasso di cattolicità ad oggi io non so come si misura, quindi molti mi scrivono, ma insomma non se ne sentiva la mancanza. Adesso, detto con tutto il rispetto, noi siamo sempre un po' così irriverenti. Guardi, l'Italia, come si dice, è un paese libero e ovviamente ognuno la pensa come piacere a tutti. Senta una cosa, signor Pivetti, ma a proposito di cristiani, ecco, recentemente c'è stata questa polemica, perché lei, insomma, adesso i cristiani sociali la pensano in un certo modo anche sulle coppie gay, no? Per esempio, c'è stata questa polemica sui figli delle coppie omosessuali. Ecco, secondo lei, uno che cresce in una famiglia omosessuale diventa inevitabilmente omosessuale? C'è questo pericolo? Ovviamente non credo che abbia nessun senso mettere le cose in questo modo. E tra l'altro, per quello che riguarda, visto che non voglio eludere affatto l'argomento, le coppie omosessuali, io credo che sia estremamente importante amarsi e amarsi in modo stabile. Dopodiché, come non mi spetta dare patenti di cattolicità a nessuno, figuriamoci se mi spetta dare patenti di autenticità dell'amore dell'uno. Cioè, fosse per lei, farebbe le coppie di una legge sulle coppie di fatto subito? Diciamola subito. Forse per me, io credo che vada, come dire, sostenuta gente che vuole amarsi stabilmente nel tempo. Diciamolo chiaro. Credo però che questo non è un matrimonio, che è una cosa diversa dal matrimonio della famiglia. No, precisato questo, io creda, ho veramente molta stima di chi sa unire all'amore la responsabilità e la durata. E dunque si faccia una legge per le coppie gay, chiamiamola in un altro modo, chiamiamola però una bella legge sulle coppie gay. Facciamo, giusto? Una legge sensata, io credo che comunque abbia senso. Lo dica pure al signor Baccini, perché non so se allora, molto... qui c'entra, non è che, guarda, io a parte il fatto che onestamente non è che sia un argomento del quale, cioè non è il centro delle emergenze, perché forse è l'emergenza più importante vabbè, per creare lavoro, creare sviluppo, eccetera. Però, e tra l'altro non è nemmeno materia di legislazione in sede regionale dove io sono candidato. Vabbè, dico però che non ho nessuna difficoltà ad affrontare l'argomento con voi come con chiunque altro, il momento che che la Ma una bella adozione come... pure, l'adozione che dice? Sembra di stare un po' al mercato, mi dà mezzo chilo di adozione, due e mezzo. No, l'adozione, l'adozione per le coppie gay. Io ho capito. Se lei parla di amore, signor Pivetti, se lei parla di amore... Io credo che sulla questione delle adozioni va seriamente ripensata anche per le coppie normali, scusi l'espressione che è sbagliata. No, però secondo lei una coppia gay può adottare sì o no? Questa è la domanda molto semplice, molto secca. Lei ha fatto la giornalista pure, fa la giornalista. Credo che in questo momento non ci sono le condizioni, però sarei molto seria, affronterei molto seriamente la questione. Mi permetterei, penso io. Vabbè, questa è una cosa, una risposta di politichese al massimo. Non è una risposta di politichese, è che mi sembra una questione estremamente delicata, mi pare di banalizzarla molto a dire sì, no, così che c'entra. Non mi sento di dire, guardi, per me è una questione un po' complessa. Parliamone volentieri. Ecco, Lorenzo, dove sei? Sei morto? No. Ma lei è tifosa del Milan? Signor Pivetti, lei posso essere franca e dirgli se su una cosa ci sta una risposta tranchante, la do. Se non ci sta perché mi pare una questione delicata, mi sento libera di dire questo. No, mi stupisce questo passaggio, come dire, lei che ha vissuto passioni politiche forti con Bossi, no? L'uomo del celodurismo e quant'altro. Ora si ritrova su questo argomento, l'ha visto che ho scritto un libro sul celodurismo. Sì, come no. Poi ora si ritrova con. Ma è passato del tempo, però, e ci sono state altre esperienze. No, non altre è soltanto cose. Questo. In realtà non è soltanto questo, perché io credo che la passione per la politica è sempre la stessa, che non è tanto per la politica che è uno strumento, ma è la passione per. Sì. Perché? No, si esita sempre a dire quelle cose che passano per retorica. Per il bene bisognerebbe evitarle. Certo, allora diciamolo in un'altra maniera, per prendersi una responsabilità pubblica, va bene? Io penso. Io però ancora non me ne faccio una ragione. Lei al massimo, perché non si è candidato in Parlamento? Questo, in un momento in cui dire politica e dire corruzione, dire politica e dire disgusto. Vabbè, però non mi faccio. Io credo che non sia giusto. Credo che sia il momento di dire le istituzioni. È ora di rimettere la politica nelle mani dei cittadini. Però questa qua è una roba banale. Signor Pivetti, mi dice una cosa del genere, una roba. Bisogna rimettere la politica nelle mani dei cittadini. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire che io potevo benissimo risparmiarmelo perché sono un cittadino privato. No, lei vuole diventare deputato regionale, punto, per fare politica, ma non secondo lei uno vuol diventare deputato regionale? Che ne so, mille motivi, vai a vedere. Allora se me li lascia dire. Per impegnarsi in politica, eccetera. Io credo che è giusto prendersi delle responsabilità. Comunque quanti voti prende Balotelli? Lei che è esperta anche di comunicazione, quanti voti dà Balotelli al Milan? Questo francamente non essendo io dotata di sfera di cristallo non saprei dirlo. Ma è milanista lei? No, francamente no. Mi farebbe piacere che Balotelli o chiunque altro nel momento in cui decide di fare politica lo facesse per migliorare. No, Balotelli non va al Milan, Balotelli non va a fare politica, va al Milan. Ma me l'ha chiesto lei che quanti voti porta? No, quanti voti porta a livello elettorale, signor Pivetti, non quanti voti porta. Ho capito il ragionamento. Non è che si candida a Balotelli. Ma questo l'ho capito il ragionamento, dopodiché siccome a me non interessa sapere quanto può contare un calciatore. Contano pure queste cose. Io diciamo che preferisco ragionare stando sul punto. Secondo me, secondo te, è una cosa che implica un'assunzione di responsabilità. Vabbè. Facciamo un po' di giro, no? Sì, per carità. Comunque lei mi conferma che non c'è più questo ufficio alla Camera. Io ero molto interessato e anche molto preoccupato perché le persone, insomma, sono andate via dalla Camera anche per colpa nostra quando lei disse che faceva. La Camera cessa con la fine di questa legislatura. Ah, però ce l'ha ancora. L'ufficio alla Camera è stato deliberato che doveva terminare. Ho capito. No, lo sapevo. Il problema è. Lei farà campagna elettorale lì dall'ufficio della Camera, diciamo la verità. Guarda, in questo momento mi trovo nell'ufficio dell'associazione Lonto Befri perché ovviamente ci siamo dovuti spostare, ma veramente questa sera c'era anche prima, ma adesso ci trasferiremo, le nostre carabattole saranno portate qui. Vabbè. Così smetteremo di ingombrare due stanze che ovviamente rimarranno vuote perché ce ne sono anche diverse altre vuote, ma questo è un altro tipo di problema. Lei dei soldi che prenderà come se sarà eletta, dei soldi che prenderà come consigliere regionale che farà? E niente, politica, vabbè. Penso. Politica. Come ho fatto no, sempre. No, vabbè, niente, che ne so. Io ho sempre, beh, perché cosa ci devo fare? No, no, nulla, nulla, nulla. Così era la mia idea che mi è venuta. Grazie, a presto, no, buona fortuna. No, la trovo interessante questa faccenda, me la può spiegare un'altra volta? No, che ne so, lei è appassionata di solidarietà, che ne so, magari dice mi do un po' di stipendio, no, ma è una mia idea così, non mi è venuta male. Grazie, a presto, buona fortuna. Va bene, ne ritroviamo, va. No me molesta el mosquito, no me molesta el mosquito, no me molesta el mosquito. Why don't you go home? No me molesta el mosquito. Senti il Baccini, che è il capo dei Cristiano Popolari con cui si candida la Pivetti, risponde. Baccini, non il cantante. Sì, sì, rispondere alla domanda su Berlusconi e il fascismo. Senti, ti prego. No, io penso che le dittature vanno combattute sempre e comunque, e ci sono molte dittature che non sono ovviamente alla luce della ribalta politica, che sono le grandi dittature nelle famiglie, nelle aziende, il mobbing, le dittature sui bambini, sulle donne, ecco, queste sono le dittature che dobbiamo combattere veramente. Ma che c'entra le dittature sui bambini, le dittature delle aziende, il mobbing? Era una domanda su Berlusconi e fascismo. Baccini! Signor Baccini, chiedo scusa. Signor Baccini, chiedo scusa. Zanzara! C'è una zanzara tigre. La migliore l'ho letta adesso su Twitter, Parenzo, ci sei? Cioè, ma perché pensi che non ci sia? No, io ogni tanto scompari. Io per lei, perché da oggi per lei, sì, per sempre, io per lei, direttorissimo, ci sarò sempre. Dunque, la notizia del giorno però è un'altra. No, aspetta, ho letto. No, no, oddio, aspetta. Ma no. non faccio il cretino. Ecco, appunto. L'ho letta su Twitter. A proposito, mi devi dare aggiornamenti sul busto di Almirante. Infatti, questo volevo anche aspetta, dire. Comunque Balotelli ha fatto anche molte cose buone. Questa è stupenda, Se non vuoi mettermi intorno. Balotelli è troppo caro, queste cose non si possono più fare. Aspetta, Balotelli no. Oddio, aspetta! Balotelli è troppo caro, queste cose non si possono più fare. Balotelli non arriverà. In tempi di crisi come questi non è possibile giocare al Monopoli. Mi dispiace doverlo dire, ma nel Milan è molto importante, assolutamente importante l'aspetto umano, ma questo lo sentiamo, Berlusconi su Balotelli. Mi spiace di doverlo dire, ma nel Milan è molto importante, in ogni squadra di calcio, nel Milan assolutamente, è molto importante l'aspetto umano, certo, della persona. E se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, così si usa dire, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo per vicende della vita di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Allora, delle due l'una, o l'hanno comprata a sua insaputa oppure qui era andato oltre, poi ha chiesto scusa il giorno dopo, ricordo, però disse mela marcia, adesso invece se prende la mela marcia dentro lo spogliatoio, vabbè, ma con Berlusconi tutto è possibile nel meraviglioso mondo di Berlusconi, altro che come il titolo di Crozza, no? Però risentiamo la Buitoni, ti prego, perché la Buitoni è spettacolare. Se la piglia con Crozza è un candidato di Monti, capolista, cioè sicuro parlamentare. Com'è che si chiama? Borletti Buitoni. Borletti Buitoni. La Borletti Buitoni. Aspetta, sentiamola questa mattina da Milan. La differenza tra Maurizio Crozza e la dottoressa Lidia Wender è che lui è pagato molto per fare il comico e la dottoressa Wender è pagata poco per fare il medico e salvare delle vite. Beh, siamo al top qui, hai sentito? La differenza tra Crozza e la signora Wender è che Crozza è pagato molto per far ridere, la Wender poco per salvare le vite umane. Volevo sapere dov'è un bar nel quartiere di Acca Larenzia. Basta! Titolo del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grilli su Montepaschi, il prestito non è un salvataggio. Tremonti attacca Banca Italia, PDL e Grillo chiedono una commissione d'inchiesta, sì di Bersani. Montepaschi, un test rivela Gianluca Baldassarre e Matteo Pontone erano conosciuti come la banda del 5%. Il procuratore, situazione esplosiva. Napolitano, il paese è consapevole delle aberrazioni del fascismo e dell'infamia delle leggi razziali. Vigilare contro le nuove insidie del revisionismo. A fondo dell'Europa, Berlusconi non rispettò gli impegni, così ha bloccato la crescita con Monti, fiducia ristabilita. Alfano, intrusione inaccettabile. Bocciata la lista dei radicali per la regione Lazio perché ha troppe donne in lista e sarebbe in contrasto con la legge sulle quote rosa. Presentato il ricorso. I generali egiziani avvertono: lo scontro politico ci porta al collasso. L'esercito pronto ad intervenire per tutelare gli interessi nazionali. Accordo raggiunto tra il club rossonero e il Manchester City. Balotelli al Milan per 20 milioni con un contratto fino al 2017. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ma ricostruiamo lo scontro del giorno. Lo scontro del giorno, quello tra Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, e altro ancora, e Alessandra Mussolini. Si parte dalla Mussolini che dice: non commento Berlusconi, sono in conflitto di interessi. No, io non parlo, non ho fatto dichiarazioni, ho un conflitto di interessi, quindi non posso parlare. Per esempio, uno come Brunetta ha detto: la pensano tutti gli italiani. Lei la sente sulla sua pelle questa storia qui, a lei, no, le dicono, cosa, no, le dicono gli italiani? Io non parlo perché la mia famiglia, io non parlo, non ho fatto un comunicato, non ho fatto un commento e non intendo farlo. E poi inizia lo scontro, sentite, è un crescendo. Vedendo quell'intervista, uno anzitutto si chiedeva se era sveglio oppure no Berlusconi, perché aveva dormito fino al secondo prima. Ci sono anche le immagini. Quando dorme sveglio. Anche ieri è stato fatto vedere il momento in cui si appisola, poi si sveglia, si asciuga la bavetta, una delle scene più brutte della storia del mondo proprio. Però al di là del fatto che lui secondo me non era particolarmente lucido domenica, ci sono due cose da dire su Berlusconi e il rapporto con la storia. La prima, molto concreta, che Berlusconi è un ignorante storicamente. In sottofondo sentite la Mussolini che dice: ma chi è questo qua che sta parlando? Un giornalista, dice, chi è che si permette di dire la bava Berlusconi, eccetera eccetera. Poi ti ricordi? Sì, poi si continua e aspetta e fammi raccontare, su. Poi però c'è anche una cosa, quello che ha detto lui, che è la frase di una persona che non solo non ha letto De Felice, come diceva Gianfranco Fini a Piazza Pulita, ma non ha letto praticamente nulla, è il pensiero di molti italiani, questo è vero. È anche vero tecnicamente che Mussolini in 23 anni qualcosa di positivo ha fatto, ma anche per disgrazia. No, allora glielo presento io, è Andrea Scanzi, è un giornalista. No, vogliamo subito cominciare a giocare con l'interruzione? Chi sei tu, chi sono io? No? Sì. Sì, allora, okay, dato che non lei sa chi siamo noi, io non sapevo chi è lei. Io purtroppo sta facendo... chi è lei, so anche chi è stato suo zio, suo nonno. So suo zio, lei non sa neanche chi è stato mio nonno. Allora, no, lei non parli... la mettiamo con la sua familiare, abbiamo detto famiglia è una cosa diversa. Non parliamolo sul familiare, invece mettiamolo sul familiare. Lei deve parlare con rispetto delle persone che sono qui, soprattutto di Benito Mussolini. Non ho alcun rispetto, cara signora, alcun rispetto. No, ma per favore. Si alza. Per favore, testa di cazzo. Io rispetto, grazie del testa di cazzo. Io rispetto di Gobetti, di Matteotti e di tutte le persone che sono state devastate da suo nonno. Di sicuro non di lei o di suo nonno. Va bene. Poi c'è Giannino che si incatena da Vespa contro le tasse. Che volevi dire prima, Parenzo? Su, che volevi dire? No, che voglio dire, queste straordinarie gazzarre sì, ormai sì. Fanno parte della grande stagione televisiva dei mostri, che è quella partorita da questa fine di Seconda Repubblica. E per dire sta stronzata, volevo interrompere il racconto che facevo della Mussolini e di Scanzi, per dire questa banalità, questa minchiata. Andiamo a sentire cosa che è meglio. Lei è crudele. Ma no, ma ho capito, volevi dire, mi sembrava di chissà cosa deve dire. Una riflessione filosofica sugli scontri in televisione, ma faccia pai rat, come si dice, va. Ho già non chiamato, capisci un cazzo. Ecco, appunto, mandami. No, guarda che ho già chiamato. Mandami Giannino che si incatena, mandatemi regia. Fatelo tacere. E chiama la Fiommi, i sindacati, chi te pare, sai che basta! Sai che me frega dei sindacati a me, me li gioco a Ramino. Dai. Oscar Giannino, candidato per fare per tornare il declino, l'abbiamo avuto spesso ospite come giornalista economico, come economista, adesso è candidato, anche lui morso dalla tarantola della politica, che ogni tanto colpisce qualche nostro illustre. Oddio, Non mi picchi con una catena. No, no, voglio semplicemente nel risponderti mettermi nelle condizioni di milioni di italiani con le tasse, di centinaia di migliaia di imprenditori con le banche. Ecco qua. E quindi questa sarà la maniera in cui stasera sto qua e posso rispondere, ma siccome siamo tutti come nel film di Abramo Lincoln con le catene, tentiamo di ricordarci che serve a spezzarla la campagna elettorale. Bene. Allora, però, un piccolo consiglio: se uno deve fare una cosa, la deve fare fino in fondo, non è che può mettersi le catene e poi ti inquadrano da metà petto in su, dunque le catene non è che si vedevano spesso. Incatenati alla sedia, fai qualcosa, incatenati tutto, no? Se uno si deve incatenare da Vespa, insomma, bisogna farlo sul serio, no? O no? No, anche questo è vero, sì. Su, è dai. Dalla scena di lui incatenato alle poltrone frua. Come si chiama le poltrone bellissime? Che non Vespa, lo so, no? Frau, no? Frua. Frau, incatenato alla poltrona frau con il cameriere, come si chiama quello lì? Il maggiordomo. Ma non lo so, bisognava usare catene più grosse, incatenarsi bene, perché non si è visto nulla, a parte l'inizio. Se uno fa la pannellata, la faccia fino in fondo. Sì, se uno fa la gianninata. Se no, uno fa... è pannellata. Credo che continui a non capire un cazzo. Ecco, appunto. Scusa Marco, però le tue tecniche sono queste. Stefano da Firenze, Stefano da Firenze. Intanto mi segnalano che il busto di Almirante, no, chiedo scusa a Stefano, sì, dimmi. È stato ritrovato e segnalato, però va tutto confermato, alla sede del Monte dei Paschi di Siena, Rocca Salimbene. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Stefano, allora? Ciao caro Cruciani. Vada. Senti, in Toscana siamo contenti, perché dopo Falce e Carrello... ora abbiamo anche Falce e Sportello. Siete buona. Poi volevo dire a Parenzo, ma lui vive a Siena, sì. E si vede, si dedica a fare la vendemmia, a cogliere l'olive. Le grandi inchieste di Parenzo. Lei dice, perché non si è dedicato qualche volta allo scandalo del Monte dei Paschi? Le grandi inchieste di Parenzo. No, vi volevo dire ma va a coltivare l'orto lì a Siena. Perché io ho vissuto qualche anno a Siena, ci ho insegnato alla fine degli anni '80. Bravo. Sì. E, insomma, è un po' cronaca un po' vecchia, ma insomma, per far capire l'influenza del PD, sì, per esempio il sindaco di Colle d'Aldesa degli anni '80, finito il mandato, fu messo in fondazione. Ma chi se ne frega? Vabbè, ma no, non è che ce lo deve spiegare. Frega. Ma scusi, domanda la rivolga alla procura di Siena, visto che l'operazione Anton Veneta era datata 2007, siamo nel 2013, non mi rompe i coglioni a me. Parenzo. Sempre a fine anni '80, nella massoneria senese fu trovata una lista dove erano iscritti esponenti politici dell'allora DS. E allora? Ma che doveva fare Parenzo? Indagare? Che doveva fare? Alcuni erano anche della fondazione. Vabbè, ma che doveva fare Parenzo? Indagare? Vorrei sapere perché Mussari, da presidente del Monte, viene premiato addirittura presidente dell'ABI e era indagato per truffa. Vabbè. A Siena, sì. E appunto Parenzo coglie l'olive e si vede non si interessa. Sapeva tutti che era un incapace questo Mussari. Ci sono due grandi questioni che agitano la politica italiana, caro Parenzo. Le sottoponiamo alla moltitudine di persone che ci stanno ascoltando, centinaia di migliaia che sono al volante e che devono restare ben fermi questa volta. Non c'è nessun bambino da buttare fuori dal finestrino, nessun orecchio da tapparsi. Ci sono due grandi questioni. Chi ha ragione tra Crozza e i Montiani? Aveva iniziato Crozza in questo modo. Troppo facile. Montezemolo, Tronchetti Provera, Moira Orfe... No, lei Ilaria Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rota Wender vanno storte così. Poi c'è Paolo Vitelli, che è il re degli yacht. Questa gente qua, io credo in loro, e aderiscono tutti alla lista Monti. Cosa hanno in comune queste persone? Beh, che loro davvero potrebbero risolvere i problemi di questo paese. Basterebbe mettergli una patrimoniale a loro, dico solo a loro. Basterebbe metterla a loro. Il più povero di questi qui ha la canciacca. Ma no, quella del risico, quella vera in Asia. Si sono arrabbiati tutti, da Monti in giù. Una volta ha scattato Monti dicendo che era una... che Crozza era, che era ridicolo. Vabbè, risentiamo Monti. Ma poi è arrivata Andrea Romano, la Borletti Buitoni, eccetera, eccetera. Ma semplicemente qui se ha detto questo ha detto una buffonata, strano perché lui di solito è molto sottile. Abbiamo dei terremotati poveri, abbiamo della gente che si è dedicata esclusivamente al volontariato, abbiamo qualche industriale, mi spiace che sia così pateticamente disinformato. Buffone, no, patetico, scusami. E disinformato. Dimmi. Scusami. Abbiamo dei terremotati poveri. Sì, poi l'unica terremotata sei incazzata perché non è per niente povera. No, ma la cosa meravigliosa, dici, guarda, abbiamo anche uno storpio, abbiamo anche uno che è un poverino ritardato di mente, l'abbiamo messo in lista. Non anche... felicissime queste cose, ma chi perché? Ha ragione? Dunque, chi ha ragione tra Crozza e Monti? Questo è facile però, ma perché? No, immagino che non ce ne sia uno di voi, uno, mi deve chiamare uno di voi che dà ragione al signor Monti e ai montiani, uno che piglia sul serio Crozza, un meraviglioso... meraviglioso comico da non prendere sul serio nel contenuto, diciamo, no, da non prendersela comunque, da non prendersela. Vicita signora Borletti Buitoni, vi ha citato, esistete. E chi ha ragione tra Andrea Scanzi, che dice di fottersene di Mussolini, di non avere nessun rispetto di Mussolini, e Alessandra Mussolini, che gli dice a testa di cazzo? Beh, Scanzi. Allora, no, lei non parli... la mettiamo sulla sua familiare, abbiamo detto, no, famiglia, no, cosa no, non parliamolo sul familiare, invece no, facciamo no, il familiare, sul perché familiare, lei parliamo. Deve parlare con rispetto delle persone che sono qui, soprattutto di Benito Mussolini di... non ho alcun rispetto, cara signora, alcun rispetto. No, ma no, ma no, ma per favore, sì, andate, andate, ma io devo stare qua a sentire questa cosa. Rispetto, per favore, testa di cazzo, non io rispetto, grazie del testa di cazzo, io rispetto di Gobetti, di Matteotti e di tutte le persone che sono state devastate da suo nonno, di sicuro non di lei o di suo nonno. Va bene, eh. 800 24 00 24, Davide da Roma, buonasera. Pronto, sono Davide Borretti Buitoni. Vorrei dire a Crozza che è un coglione, vorrei dire, capito? Perché noi siamo tutti per Monti, uniti per Monti, sui Monti di pietra siamo, capito? Ma lui, stava scherzando, è una cazzata. No, però uno te la volevo dire, che Berlusconi in 20 anni se ne ha fatte tante le cose, si è fatto un sacco di donne buone. Dai, no? È vero, no? Ma lei deve uscire fuori. Se mette Rubi Rubaguari come capolista lì a domenica, odono tutti, dai. Ma lei da dove è uscito fuori? Da dove è uscito fuori lei? Da dove è uscito fuori? Da Roma. Da Roma? Da Roma. Ma che vuole fare nella vita? Cosa fa per vivere? Io? Sì. Niente, vende la pasta. Vende la pasta, che vuol dire vende la pasta? No, non ho battuta così, no. Faccio elettricista, faccio. Quanti anni ha lei? 42. 42. No, me lo presenta pure io, perché ho sentito Arrivetti dopo Ballando sotto le stelle, poi dopo si ripresenta, poi che ne so, boh, non lo so, qui veramente c'è bisogno di elettricisti, c'è bisogno di elettricisti in politica. C'è bisogno, sì, beh, sì, diciamo sì, per dare la scossa, insomma. Ma anche per mettere a posto i fili del cervello ogni tanto. Ho visto il pezzo del bus da Mirante che correva sul raccordo anulare. Ah, correva da solo? A parte di sotto, però. Bravo. A parte di sotto. Sono le zampette, capito? Ciao Davide, zampette. Alessandro, no, da Milano, no. Alessandro da Milano. Buonasera, soprattutto Parenzo. Sì. Tutti lo trattano male. Mi faccia sentire bene mi faccia sentire bene sta voce, che non si sente niente. Su, Alessandro, dai. Sì, allora, no, volevo intervenire. Non si sente niente, mi dà fastidio. Franco dalla provincia di Milano. Sì, pronto. Allora, la differenza è che con Mussolini, quando si andava in Europa, si era orgogliosi di dire che si era italiani. Sì. Oggi io ho vergogna di dire che sono italiano. Cioè, non ho capito, scusi Franco, con Mussolini uno andava in Europa... Con Mussolini, quando si andava in giro in Europa, sì, si era orgogliosi di dire che si era italiani. Ma chi andava in giro in Europa quando c'era Mussolini? Ma in ogni caso, comunque, c'era quell'orgoglio italiano. Ma chi l'ha detto? Ma lei c'era? Ma quanti anni ha lei? Ma cosa? Chi l'ha detto? Ma quanti anni ha? Imbecille, quanti anni ha? Ho 55 anni e non offenda comunque. No, non ma se lei pensa queste cose è un imbecille. No, perché comunque eravamo rispettati. Siete su radio ubriacone. Ma a 55 anni che ne sa lei? Non andava in giro per l'Europa, ma che ne sa? Ma vedo i filmati e mi... Ma i filmati di che? Ma quali filmati, no, che uno andava in giro in Europa a essere orgoglioso? Ma di che sta parlando? Ma lei è pazzo. Che a quell'epoca lì eravamo rispettati da tutti, invece oggi io per... Ma dove eravamo rispettati? Caso, ma di che? Di in cosa? Ogni caso, se oggi c'era Mussolini, sì, i manager del Monte dei Paschi di Siena andavano fucilati, invece questi qua si piglieranno una lauta liquidazione e fra un anno ci ritroviamo in un altro istituto bancario. Ma lei quanti... lì sempre da altri... Bene. Partiti politici. Lei qua... PD o PDL, lei che... fanno schifo tutti quanti. Bene. Veramente, abbiamo pieni coglioni. Bravo. Bisogna che tornino le Brigate Rosse e incominciano a ammazzare qualcuno. Lei passa, lei passa da Mussolini alle Brigate Rosse, ma perché non la internano? Tutti, ma mi fanno schifo tutti questi politici. Ma qua. Lei quante cosa vanno in giro al televisore a fare? Con tutto quello che hanno da fare, come si fanno, come sì. si permettono di andare a farsi truccare per andare in televisione a perdere tempo? Ma lei è mai tutto quello che c'è da fare? Io aspettiamo veramente, c'è tanto da fare in Italia, ma bisogna veramente mandarli tutti quanti in discarica questa gente qua. Sì, aspetti un attimo, Franco, stia tranquillo. Ma lei è stato sedato qualche volta? La sedano oppure a casa, anche a casa è così lei? Oppure qualche... No, sono a casa anche così e mi apprezzano comunque, perché comunque scusi. Quello che dico io è che ci vorrebbe sì. veramente una dittatura democratica, la chiami una come vuole. Una dittatura democratica, sì, le Brigate Rosse, sì, Mussolini, sì, la dittatura democratica. Esatto, ma perché bisognerebbe fare ma le cose. Ma ci vuole un lavaggio del cervello, ci vuole forse, un bel lavaggio del cervello, di quello serio. Qui è 40 anni che continuiamo a chiacchierare e non facciamo niente. Ma chiama l'elettricista di prima, così gli diamo una bella scossa a lei. Sì, perché un attimo, perché bisogna confrontarsi con le parti sociali sempre. Le parti sociali, certo. Eh sì, per 40 anni qua ci siamo fermati praticamente. Confrontarsi con le parti. Lei nell'ordine, scusi, no, Franco, non ti fa capire perché gli neuroni. Stia tranquillo, stia tranquillo un attimo. Sì, ma stia tranquillo. I danni arrivano anche da Andreotti, da sì, Fornari, vabbè, da certo, Romolo, non da Fontani, non c'è da dubbio. Tutta quella gente lì che dava la pensione a chi ha fatto un giorno di governo. Sì, certo. Ma ci rendiamo conto, 1.700 euro al mese. Sì. Ma io la prima cosa che faccio quando vado sul governo, gli tolgo la pensione, qua. E se parla lo metto anche al muro. Ma chi mette al muro? Ma chi mette al muro? Prende 1.700 euro di pensione, ma con quale coraggio prende 1.700 euro di pensione al mese nei confronti di chi lavora per 40 anni e prende 700 euro al mese di pensione? Sì. Ma queste qua sono vergogne, che dobbiamo pulirci da queste vergogne. E per far questo, mi dispiace, ci vuole un sì. dittatore che decide le cose. E il confronto democratico, il confronto con le parti sociali. E, certo. confrontiamoci sempre, e continuiamo ad andare alla deriva. Tanto non si perché può fermare. Qui a confrontarci comunque sempre, andiamo alla deriva, siamo già nella foglia e detto. Non ci rendiamo conto. E qui dal 2008, quando è scoppiata la Lehman Brothers, sì, per, sì, 5 Lehman Brothers sono, certo. se per 5 anni sono riusciti a coprirci un buco del Monte dei Paschi, che era una cosa vergognosa. Dove si trova lei, Franco? E chissà quante altre Monte Paschi di Siena ci sono. Dove si trova lei? Franco. A Milano mi trovo. Milano. Provincia dove? In provincia o a Milano? A Milano. Si fermi un attimo, perché adesso stia calmo, Franco. Che stanno per arrivare dei signori in camice bianco. Stia ok, Franco. Sì, va bene, però posso garantire che con chiunque mi confronto tutti no, con quelli non ci si confronta molto, quelli no, la prendono, la sollevano, la mettono su una sì, lettiga Franco. Su una lettiga continuiamo a parlare, continuiamo zac, a discutere zac. Che quelle cose non si fanno sì. Franco, qua non si fa niente. Ascolti quando Parenzo, cose... ascolti Parenzo un attimo. Franco, sì. Scusi, sono Parenzo, il suo medico curante. Le avevo detto di continuare per almeno 25 giorni con quelle fiale. Vede che poi sta male. Gliel'avevo detto, 25 giorni di quelle fiale e a letto tranquillo, se no mi ritorna come al solito. Bene, continuiamo a fare i mediatori, continuiamo a ma fare i mediatori di che? I mediatori. Certo, è malato. Certo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e continuiamo ad andare nella M. Le fiale per più di 25 sì, giorni. E continuiamo a fare così. Ho allora. Capito, Franco, ma se lei ha interrotto ecco. le fiale, se lei non ha più preso la cura, abbiamo senso. Poi si ribella in questo modo, il corpo si ribella in questo modo. Certo. No, ma posso garantire che con chiunque mi confronto, nessuno mi dice il contrario e tutti quanti vorrebbero veramente agire così. Perché veramente è una ma agire così come? Non si è capito. Lei è passato dalle Brigate Rosse a Mussolini, ai confronti con le parti sociali. Ma forse non vi rendete conto che in un'altra epoca c'erano già i forconi a Montecitorio. Qua siamo tutti, ci hanno ridotto anche una massa di coglioni che non siamo più capaci neanche a reagire. Sì. Ci vuole una rivoluzione sì. dalla Russa niente, a Vendola, non l'ha presa. Da Berlusconi a Bersani. Non l'ha presa le fiale. Ma buttiamole via tutti, veramente, che è una vergogna. È una vergogna di per come ci stanno trattando. Però può servire anche, dal punto di vista medico può servire questo sfogo. Sì, con me, continuate, cioè, è giusto che voi fate del sarcasmo, ci mancherebbe altro. No, ma è giusto anche dal punto di vista medico... Certi sfoghi sono anche, capito? Vabbè, innanzitutto io mi sono sfogato e non ho offeso nessuno. No, per carità, no. Vuole solo sparare, figurati. No, lei non ha offeso nessuno, no. Vabbè, ho semplicemente detto pane è quello che doveva andare pane al pane andava detto. Sì, certo, ma è quello che andava detto, non c'è dubbio. Ascolta, allora le chiamo il culo a quei bastardi della Monte dei Paschi. Sì, lei non ha offeso nessuno, certo, no, per carità. Sì, certo. No, bisogna invece elogiarla quella gente. Ma chi... Ma sì, quella gente lì bisogna elogiarla. c'è tutta quella gente di Crucial, come si chiama quell'altro lì? Cruciani sono io, i Parenza, no, sì. No, stavo parlando di tutta quella gente. Ogni giorno esce fuori un politico che è imbischiato nelle mazzette, sì, dall'usi della situazione di un partito di M con il 2% dei voti che si fa fuori 20 milioni di euro che spariscono così. Niente, ma le fiale, so, quando uno non prende le fiale, no, non c'è, a un certo punto, quando si perde... Allora, quando sì, si perde sì, la facciamo, continuità, diciamo, no? Facciamo iperbonisti. Com'era iperbonisti? No, quello era iperbenisti, no? Iperbonisti. Vabbè, comunque, sì, va bene lo stesso. Poco importa, la gente no, capisce. Non stiamo lì a sottilizzare. Non stiamo a sottilizzare, veramente. Eccoci qui. Beh, ti ho fatto una grande sorpresa, Davide. Ti ho fatto una grandissima sorpresa. Ti ha invitato Krugman, che ha sito un ancora questo Krugman. No, ma molto più importante. Direttamente da Bruxelles. Barroso. Ma quale Barroso? No, ti pare che il signor Barroso viene alla Zanzara? Tu chiedi per strada chi è Barroso? La gente dice che pensa che è un tipo di elefante? No, una specie di elefante? Oppure chi ha invitato? Ah, potresti avervi. Forse perché oggi. Trichet. La gente pensa. Trichet, dici. Chiedi per strada chi è il signor Trichet? Per strada la gente. Ma cos'è? Un gioco d'azzardo? No, ma l'ex presidente della BCE forse. Mario Borghezio con noi, buonasera. Buona Padania a tutti, birichini. Buona Padania. A ridaglia con sta Padania. Come andiamo? Bene. Si combatte? Dal nostro osservatorio lontano. Sentiamo, simpatia. Lontano dalle beghe, lontano da lontano Roma. Lontano dalla puzza di Roma ladrona. Lontani. Più Roma, lontani no. Si sta, meglio è, no Mario? Certo, bravo. Ma la c'è penso una... proprio così, come c'è tutti sta... i padani d'altronde. Non d'altronde. Tutti lo dicono con quella chiarezza che modestamente le appartiene, le appartiene. E tra l'altro Borghezio, però, precursore... Siamo qua, ecco, teniamo siamo... la piazza. Ecco, appunto, tra l'altro Borghezio... Anche oggi ho avuto un simpatico incontro con la delegazione di Cipro. Di Cipro, sì. Cipro. Sono venuti qui perché io sono relatore sul riciclaggio. La delegazione di Cipro. E sono venuti da me, noi a confrontarsi con la commissione CRIM. E io con la delicatezza che mi distingue gli ho detto, ma sapete che cosa ci hanno detto quando siamo andati in delegazione in Serbia? Gli abbiamo chiesto, ma dove vanno a finire i soldi degli zozzoni che da voi fanno criminalità? E dice, ci hanno nominato un solo paese, Cipro. Cioè? Cioè che tutti gli zozzoni del che operano in Serbia riciclano... Ma chi sarebbero gli zozzoni che operano in Serbia? Diciamo... Non è stato accolto, diciamo così, come una manifestazione di bon ton. Comunque. No, ma appunto, ma a lei chi si riferiva? Gli zozzoni che abitano in Serbia, scusi? Chi no, sarebbero? Noi siamo andati come commissione CRIM Serbia a indagare sulla criminalità. Esatto, eccetera, bravo, sì, sì. È un paese che bussa l'Europa certo, e allora noi sì. andiamo a verificare. La grande Serbia, no? La grandissima Serbia. Chiedere in Serbia dove vanno a finire gli soldi guadagnati dagli zozzoni, dai criminali. Ci hanno fatto un solo nome, Cipro. Un solo stato, il Cipro. E io oggi, con la delicatezza, appena incontrati i ciprioti, esponenti ciprioti, gliel'ho detto chiaro e tondo. Non, diciamo che non è stato forse ritenuto un. Non hanno reagito in maniera. Questo di bon ton, comunque, è sempre meglio e lo dicevo come esempio del parlare chiaro, che secondo me in politica è paga sempre. Positivo. Paga sempre. E dire paga. Le cose che si sanno, per esempio. Io nel 2008... Non beh, questo lo sappiamo, hai fatto la prima... Eri intervenuto già sul Monte dei Paschi, no? Che l'avevano insabbiata le mie denunce nel 2008, adesso se ne accorgono perché lo sanno anche in Antartide che del buco del Monte Paschi, adesso aprono coraggiosamente un'inchiesta che io ho sollecitato nel 2008. Ma questa è già storia. Allora, Borghezio, io volevo chiedere una cosa, ma lei lo sa, una delle notizie del giorno è il ritorno di Balotelli in Italia. Sì, il padano, il giocatore padano torna all'Ovile. Ma non è padano, è italiano. Un po' scurettino, per dire la verità, però padano. Padano Ambre. Padano Ambre. Cioè, un padano Ambrato. Molto Ambre, peraltro. Ma che c'è? Però non è antipatico, eh. Meglio questo Mario qui di quell'altro là, che tutti sappiamo. Meglio noi Mario, diciamo padani, diciamo però ma padani. Ma anche quello piccoli, è padano, padani, però. Anche quello padani è padano. Non banchieri, ecco, padani. Padani della giusta, ecco. Ma padani anche... magari un po' birichini, un po' casinisti. Beh sì, molto casinisti. Non servi delle banche, ecco. Però voglio non dire... del Bilderberg, ecco. Padani sì. Semplici, che parliamo normale, che parliamo sì. Qualche volta anche un po' sboccatino, qualche sì. Volta magari siamo anche un po' goliardi. Come eccetera. Al bar, però, come in taverna. Però le come mani al bar. In tasca agli italiani non le mettiamo. I 4 miliardi di euro... per sì. Salvare i ladroni delle banche non li diamo. Ah, quello è un prestito, Borghezio. Sì. Però è scusi, prestito, mi interessa si questa... prestito, ma lo paghiamo noi. Mi interessa questa cosa dell'Ambre. Ambre. Sì, è un giocatore Ambre che Ambrato. Tra l'altro è molto simpatico. Sì. Ma lei dice non è italiano, è padano, dice lei. È padano. È non padano. È italiano. Parla è anche... bresciano, scusate. Però è italiano. Sono di Brescia. Sia pure adottivi. Sì. Lui è, diciamo così, non ha l'aspetto diciamo etnico tipico degli abitanti no. Originari della no. Padania. No. Ad essere onesti. Essere sinceri. Però c'ha un modo di fare simpa. Lo accoglie. Benvenuto in Padania. Lo dica. Bentornato in Padania. Lo dica. Bentornato in Padania. Un colpaccio del Berlusca che è da quel figlio di sì vabbè abbiamo capito sì. Sempre al momento giusto ogni tanto ne fa una giusta anche lui. Anche su Mussolini mi sembra abbia dato è stato un po' non ha scelto diciamo che come gaffer diciamo come scelta della giornata non era proprio peggio di così non poteva fare però se uno va nel merito se uno però poi... io dico questo meglio uno che dice quello che pensa dei tanti sepolcri imbiancati che parlano ipocritamente che dicono adesso di essere sì. Tutti a favore degli ebrei fino a ieri applaudivano Hamas ecco questa sì, ieri sì. Oggi e anche domani cioè come sì, si certo. Fa a essere antisemiti e tifare per Hamas. Ma scusi, ecco, dica una cosa adesso torniamo poi andiamo quell'altro intervistato dalla stampa che dice sì. Berlusconi un pericolosissimo lo storico no sì. E cazzo uno va a vedere e quando era giovane quello storico lì ha pubblicato un libro di elogio di Hitler sì. però Berlusca è pericoloso. Ma sì, vabbè, adesso andiamo su Berlusconi dei convertiti, no? E il fascismo, Borghezio. Professor Cardini, sì. Per queste frasi dette sicuramente in un momento, in un'occasione del tutto inopportuna. Però, sì. Dico frasi, beh, adesso lei, proprio lei che dice, storica, proprio lei però... che dice un momento inopportuno, proprio lei, Borghezio, no, questo non me l'aspetto. Il momento inopportuno, ma il momento inopportuno gli errori si possono commettere, gli errori, tutti quelli che come me e come lui parlano, diciamo, col cuore, parlano sì. Sinceramente, non sempre fanno un ragionamento di opportunità, ma questo non è un reato. Ecco, però torniamo questo un attimo su Balotelli, scusi, lei non preferirebbe, però, non preferirebbe di Balotelli che giocasse con prima o poi con la nazionale padana, insomma. Ma o con no? La nazionale padana lo vedrei bene, però ovviamente non in una squadra padana tutta di Ambrè. Una squadra padana con un bel Ambre. Con un bel molto Ambre, bravo, cioè. Peraltro pagato meno. Come gli Ascari, diciamo, come gli Ascari, no? Esatto, che erano tra l'altro Ambre. Molto validi. Molto validi. Come gli Ascari. Ma perché dice Ambre? Ambre, esatto, Ambrato. Ma guardiamo quello che è successo a Timbuktu. Non so se avete visto la mia interrogazione di oggi. No, non abbiamo visto. La mia proposta al Parlamento Europeo di mandare una commissione per salvaguardare quel meraviglioso patrimonio. E vabbè, quello per fuoco, no. Quello purtroppo. Però la riflessione che onestamente... Sì? In maniera poco politicamente corretta io faccio, sì. Il colonialismo queste porcate non le ha mai fatte, ne faceva quando c'era la Legion étrangère, sì. I beni culturali degli arabi non venivano toccati, venivano protetti come tutte le dunque realtà. Viva il colonialismo invece da certo questi modo. Figli di puttana degli jihadisti non rispettano niente e massacrano e incendiano e distruggono un patrimonio preziosissimo sì, della cultura. Senta, africana, però per tornare, sì, vabbè, so, io ho lei capirà europeo a tutelare l'identità di quel popolo. Lei capirà che Timbuktu non è una cosa di grandissimo interesse per chi ci ascolta, Borghezio. Dunque, vorrei tornare. Timbuktu, veramente tutti i telegiornali oggi hanno dato la notizia. Sì, io dove sono in Francia forse. A protestare. No, però scusi, Borghezio, c'è una cosa molto interessante Timbuktu da dire. Poi sono anche bene. Napolitano oggi ha sembra detto di vederli questi qui che bruciano che cosa questi però nessuno dice che sono metodi fascisti, no? Esatto, questi, ma lì bisogna i legionari colonialisti sparare senza paura, difendevano la cultura africana, questi figli di puttana di islamisti la bruciano. Però i fascisti sono quelli della Legion Etrangère. Viva la Legion Etrangère. Tra l'altro vi annuncio una mia idea. Sì. Moderata e tranquilla. Sì, porterò gli reduci della Legion Etrangère con le loro fanfare da tutta Europa qui in Europa. In dove? Primavera un bel raduno di ex della Legion Etrangère. Vabbè, perché? Ma è perché rappresentano quell'Europa, diciamo, pulita, tradizionale, diciamo con le fanfare, che crede a patriottica. Colonialista nel senso buono, cioè quel sano colonialismo che ha portato civiltà in Africa, ha sempre rispettato la cultura africana, la cultura locale. La Zanzara. Eccoci qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, con Mario Borghezio in diretta da Bruxelles, eurodeputato della Lega Nord. Al di là del momento, però, Borghezio, lei condivide quello che ha detto Berlusconi su Mussolini? Cioè, al netto di tutto. Al netto di tutto. O è stato persino troppo duro nei confronti di Mussolini, Berlusconi? No, non dico questo. Io ho un giudizio, diciamo così, più articolato. Però al fondo di tutto mi è piaciuta, e premessa l'inopportunità del momento. Vabbè, quello l'abbiamo detto, sì, certo. Però, ecco, facciamo un confronto. Sì. Il Berlusconi che si lascia scappare in un momento è quello che pensa, legittimamente, perché il giudizio è quello che pensano poi milioni di nostri connazionali, anche padani, italiani. Cioè, dunque è vero che è quello che pensano tanti italiani? Milioni. Compreso Borghezio. Compreso sicuramente per certi aspetti. Vabbè, non si nasconda, Borghezio ha detto io avrei fatto dei distinguo. Comunque, insomma, ma le leggi razziali certamente non scandalizzano Borghezio. Ah, ecco, appunto. Ecco, confrontiamo questo parlare con quello di un sepolcro imbiancato. Sì. Un sepolcro imbiancato, il Presidente della Repubblica, che uno oggi ha stigmatizzato tutte queste cose qua di fronte ai reduci dei campi di concentramento tedesco. Ha detto ora, che il fascismo pure Presidente della Repubblica, ancorché reiteratamente sollecitato a farlo, dei risarcimenti tedeschi ai nostri connazionali internati, soprattutto militari, ma non ma solo, non è mica responsabilità sua. Nei campi tedeschi se n'è allegramente fottuto. Ma non ha fatto un cazzo. Ma non è colpa sua. Ma che c'entra? E allora confrontiamo l'ipocrisia di chi si straccia le vesti sul ricordo dei campi, eccetera, eccetera, di fronte a questa, fra virgolette, gaffe, pretesa gaffe berlusconiana, e Berlusconi che perlomeno è coerente, dice quello che pensa. Però Napolitano ha detto, allora, se è vero Borghezio, un attimo solo. La lacrimuccia ipocrita di un Presidente della Repubblica che a favore dei nostri internati militari, ma non è colpa sua, che non dovevano è essere risarciti dal governo della signora Merkel, vabbè, la quale ha opposto un no. Sì. L'ho sollecitato anch'io al Parlamento europeo. Il governo tedesco non ha fatto niente e il nostro Presidente della Repubblica, non ancorché reiteratamente sollecitato, non ha fatto un cazzo. Il Presidente Napolitano non ha fatto un emerito tubo. E allora confrontiamo i due personaggi. Berlusconi ne emerge molto meglio. Allora, Borghezio, però Napolitano ha detto il fascismo fu un regime infame. Ha detto le leggi razziali sono aberranti. È legittimo il giudizio storico di Napolitano, però tutta questa lacrimuce, tutta questa ipocrisia e questo ricordo non appare sincero, perché se fosse sinceramente preoccupato del destino che hanno avuto i nostri internati, per quelli vivi si sarebbe dato. Vabbè, però adesso non era molto coraggio, non occorreva essere un leone, quindi poteva farcela anche Napolitano. Ma lei stima di più Mussolini o Napolitano? Non c'è confronto, cioè? Sono due personaggi, come lei in termini di calcio volesse confrontare Balotelli e me. Io Balotelli e me, io qualche tiro lo facevo, ma sono una nullità. quindi senza dover precisare sì. chi è la nullità. Beh, mi sembra chiaro. Siamo di fronte, come figure storiche, sì. siamo di fronte diciamo a due categorie diverse. Due categorie. Come nel calcio io e Balotelli. Cioè, voglio dire... Due categorie diverse. Cioè, Mussolini fu un grande statista, Napolitano no, diciamola questa. Mussolini è stato un grande personaggio storico e Napolitano, diciamo, appartiene alla cronaca politica e sì. diciamo non... Certamente non è un grande personaggio, non è un personaggio che lascerà una traccia nella storia. Cioè, lei stima molto di più Mussolini. Qualche anno non gliene fregherà più niente a nessuno. Lei stima molto più Mussolini. Mussolini è un personaggio che ancora adesso è studiato a sì. livello internazionale, apprezzato in alcuni casi. Perché pensiamo soltanto a questo enorme aperçu che è storico, che ha aperto sì. la pubblicazione, la messa a disposizione degli storici sì. di tutto di quel patrimonio che sono le lettere con chi? Con la Petacci che ci descrivono un po' un Mussolini intimo, un sì. vero pensiero, eccetera. Molto cioè se ancora adesso sì. si leggono con interesse e si scoprono i giudizi personali. Cioè è un confronto impari, dice lei. È stato protagonista della storia è un confronto impari. Del secolo scorso. È un confronto impari, dice lei. Nel bene e nel male. No, voglio dire... Certo, le leggi razziali furono non solo, come è stato detto quasi da tutti, sì. un'infamia, ma furono particolarmente gravi perché colpirono addirittura sì. i più convinti fascisti ebrei che furono sì. protagonisti dello squadrismo. Ma anche in quello, lei ci trova qualcosa. Dell'impresa di Fiume. Sì. Ma anche in quello lei ci trova qualcosa di positivo. E poi del fascismo regime, del fascismo movimento e del fascismo regime. Sì. E quindi, secondo sì. me, abbandonare per motivi di... diciamo politici sì. i propri sostenitori furono questi personaggi ma ho capito. Io ricordo il fascismo torinese degli Ovazza che poi sono diventati sì. parenti che sappiamo però le voglio dire che anche Hitler è studiato cioè, anche Hitler è un personaggio molto sì, studiato ma io dico che è studiato con interesse anche voglio dire anche apprezzato dice lei no diciamo con se vogliamo con sono studiate con interesse positivo alcune sì. realizzazioni. Ecco, ma quante cose fece bene in percentuale Mussolini? L'80%, 90%? Quante cose? In questa sede non mi addentrerei. No, in percentuale, Borghezio, in percentuale. Io dico che il fascismo regime, al di là... Sì, però al di là diciamo di questo, Borghezio, io voglio capire una cosa, al di là delle distinzioni storiche, secondo lei in che percentuale fece bene il fascismo? Che ne so, l'80%? È molto difficile stabilirlo, così, perché che ne so. Bisogna vedere l'importanza, però alcune cose importanti ben fatte pensiamo no, soltanto l'80% alla legislazione 90... sociale ah alla non c'è dubbio sociale. Ma era una dittatura certo ma una dittatura non impedisce che faccia delle cose positive delle riforme sociali ma non è molto paragonabile con Napolitano. Sì. Ha preso un'Italia rurale e arretrata sì. e l'ha fatta diventare un paese abbastanza moderno dal punto di vista sociale certamente no comunque tra Napolitano e Mussolini di Berlusconi sì. do un giudizio critico là dove magari Berlusconi lo dà positivo ma dove Berlusconi ha dato tutto positivo l'aspetto di sinistra del fascismo il fascismo come nazionalsocialismo sì. come tutti sanno è un fenomeno di sinistra sì. e per quanto riguarda il nazionalsocialismo di estrema sinistra sì. perché non a caso nazionalsocialismo sì. Estremizzò alcune istanze vetero socialiste. Scusi, però abbia pazienza. Però d'accordo, però lei dice non c'è paragone. Cioè io stimo molto di più Mussolini di Napolitano. Va bene. Però ho detto che le due figure sono imparagonabili. Appunto, ma lei lei stima molto di più Mussolini di Napolitano. Mi sembra io dico che come personaggio completamente diversa. Quindi voglio dire, non ha nemmeno senso paragonarli. Vabbè, ho capito. Mussolini però appartiene a una categoria, diciamo che è una categoria superiore. Però lei è appunto una categoria superiore. Storicamente è una categoria. E dunque lei stima molto di più quel personaggio rispetto a Napolitano. Questo ma non è una questione di stima, è una questione diciamo di oggettiva valutazione delle dimensioni storiche. Cioè, Napolitano difficilmente passerà alla storia. Fino adesso non ha fatto nulla per passare alla storia. Beh, negativamente per averci scodellato sì. un presidente del Consiglio servo del sistema bancario sì. dell'alta finanza come poi come Monti il passato questo comunista un errore cioè ha fatto più cose negative ha fatto più cose negative Napolitano di Mussolini dice lei questo non voglio dire, però ne ha fatta una, diciamo, fra sì. le poche iniziative, una sì. negativissima l'ha fatta, nominarlo senatore vita e dargli... Cioè non mi dica, non mi dica che Napolitano, che Bossi rimarrà più inibile di storia... Sta mettendo le mani dell'alta banca e dell'alta finanza. Non mi dica, che Bossi, non mi dica che Bossi rimarrà più inibile di storia rispetto a Napolitano. Ma di questo non ho dubbio alcuno, cioè Bossi è un personaggio che sicuramente passerà alla storia. Bossi sicuramente passerà la storia, perché è stato un risvegliatore di popoli, con magari anche i suoi errori, di questo sì. non ci sono Vabbè. Dubbi. Io non sono così fazioso da pensare che Bossi non abbia commesso errori, però Bossi, diciamo, al confronto di Napolitano è un gigante. Ma secondo lei siamo esiste... di fronte a una pulce, un gigante. Così a una pulce è un gigante. Una pulce è un gigante. Senta, ma l'olocausto degli zingari è esistito secondo lei? Ma come lei sa, per olocausto si intende quello della Shoah, sì. che riguarda essenzialmente sì. gli ebrei. Gli zingari furono perseguitati e in parte anche sterminati, ma le dimensioni e le modalità furono molto diverse, cioè non ci fu una notevole persecuzione e anche un parziale sterminio, però non vogliamo confrontare né le dimensioni né il carattere epocale, eccetera, due cose diverse. Vabbè, come ci si trova lì, lontano da Roma, lontano da Roma, lontano da Roma. Sente l'odoraccio di Roma ladrona. Non che si sente. Che stare qua e non dover andare a parlare. Ma non c'è da quelle parti il signor Albertini, da quelle parti lì, non si vede. Non lo vediamo più, adesso si è dedicato alla campagna elettorale, non lo vediamo più. E quindi, ha sprombattuto contro la Lega, eh. Ma cosa vuole che sia, con tutto il rispetto, perché è una persona di una certa simpatia, eccetera, sì. anche molto educato nei nostri riguardi, sì. lo è sempre stato, però non voglio dire, Maroni non lo vede nemmeno. Vabbè, quello vedremo, saranno le urne. Lei è alleato di Alemanno, è tornato alleato di Alemanno, pure di quel Grande Sud, come si chiama, lo conosce lei il Grande Sud, il partito? Il Grande Sud Grande Sud. Borghezio è una realtà locale etnica molto diversa dalla nostra. Ma com'è etnica? Diciamo etnoculturale diversa. Cioè lei mi sta dicendo che io più che altro mi dedico alla segnalazione alle autorità europee. Ne ho fatto aprire un'altra inchiesta. Di che cosa? Sapete, oggi il commissario all'agricoltura ha aperto in seguito alle mie interrogazioni sul finanziamento. Cioè lei dice che al sud sono di un'altra etnia, alla famiglia proprio? Rina e ai amici di Provenzano ha detto che aprirà o costringerà l'italiano ad aprire. Adesso non ce l'ha anche tutte le sue iniziative, ma al sud sono proprio di un'altra etnia secondo lei? No, ma che diciamo il popolo meridionale sia etnicamente molto differenziato. Etnicamente. Settentrionale, non è che lo dico io, lo dicono tutti gli studiosi, non è una tesi mia. No, per carità. Poi che queste differenze non vogliono dire superiorità è diverso, è ovvio, quindi, certo, scontato. Però, diciamo. Diversi, come i liguri sono diversi dai piemontesi, però si immagini un altoatesino e uno di Siracusa sono diversi. Grazie, a presto, Marione. Padania libera, sempre. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà, zazà, zazà, zazà, zazà. Ci chiama da Bolzano il signor Mohammed. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Vada. Bravo, Mohammed. Allora, no, io volevo intervenire perché è impossibile lasciar parlare quel cretino lì di Borghezio al telefono e chiamare i musulmani sono figli di puttana che ha ragione e non intervenire e non va bene. Bravo, ma diceva quelli che distruggono la biblioteca a Timbuktu. I musulmani figli di puttana, i terroristi. Ma diceva dei terroristi, non è che diceva di tutti i musulmani, ma quelli lì. I musulmani lì. Ha generalizzato tutti i musulmani, ma no, è possibile. No, parlava dei terroristi, però è stato con un linguaggio abbastanza... È un linguaggio un po' forte. Ma sì, come si fa a lasciare la parola a un cretino come questo qui? Ma parlava di quelli che distruggono i libri a Timbuktu, di quelli che danno l'assalto alle biblioteche, sì, di quelli che uccidono. Ci sono di tutte le razze. Ho capito, quello parlava di quelli. Che devo fare? Sì, allora, quando parlava della gente del sud, quelli lì sono un po' diversi, etnicamente sono diversi, sono più intelligenti di quelli della Lega che hanno votato il figlio di Bossi, quel cretino lì. Vabbè, può darsi, quello è un altro discorso. Come può darsi, no? Però Mohamed, lui si riferiva a quelli che distruggono le biblioteche a Timbuktu e uno può chiamarli tranquillamente figli di puttana. Qual è il problema? di puttana, ogni se, se uno le distrugge, se uno le distrugge, no, ho capito Mohamed, se uno distrugge, lasci perdere adesso, distingo, se uno distrugge la biblioteca di casa sua o se distrugge casa sua, come lo chiama, allora, lei sono, non lo chiama tutti, figlio di puttana? Sono tutti figli di puttana i musulmani. Ma non ha detto questo, adesso non lo voglio difendere, ha detto, si sente la legislazione. Vabbè, ho capito. Adesso la risentirò. Non ha detto tutti i musulmani, ha detto quelli che distruggono i mali. E i musulmani, figli di puttana, che distruggono le biblioteche in Africa. Ho capito, ma si riferiva a quelli. Allora, figli. Vabbè, ho capito, quella roba lì, cioè, si riferiva a quelli che distruggono le biblioteche in Africa. Non ha detto i figli di puttana. Se un deputato del Parlamento europeo si permette di parlare quello che vuole, ho capito. È un cretino, va bene, d'accordo. Lei ha detto la sua. È arrabbiato questo qui, è arrabbiatissimo, d'accordo. Alberto da Milano, buonasera. Alberto, mi sente? Sì, dica. Buonasera, senta, innanzitutto, vabbè, complimenti a lei e a Renzo Grandi. No, intervenivo per quanto riguarda le Trascanzi e la Mussolini, insomma, 10, 100, 1000 volte Scanzi, insomma, per quello che mi riguarda. Poi per quanto riguarda... Però scusi un attimo, lei c'è, cioè, 10, 100, 1000 volte Scanzi per che cosa? Perché la Mussolini non si deve permettere di dare la testa di cazzo a Scanzi? Perché Scanzi... Scanzi ha detto, io non ho nessun rispetto di Mussolini, ma anche di lei. Non ho nessun rispetto di Mussolini, che ha ucciso le persone, eccetera, eccetera. Diceva Scanzi, non ho nessun rispetto nemmeno di lei, della Mussolini. Io la roba su Mussolini la posso capire, cioè su Benito. La roba su Alessandra Mussolini infatti è un po' gratuita. Infatti io mi riferisco 10, 100, 1000 volte Scanzi per quanto riguarda la frase non ho rispetto per Mussolini. Poi per quanto riguarda lei, la persona, su quello forse ho sbagliato, però per quanto riguarda Mussolini io sono dalla parte di Scanzi sicuramente. E poi per come, per il modo in cui gli ha risposto, insomma, in cui si è proposto. Poi invece per quanto riguarda il grande insomma, sì, Borghezio, adesso non vorrei essere querelato da Borghezio, però insomma a me sembra un idiota, perché uno che viene a dire la Lega, a me non mi sembra di aver capito così, la Lega non ha mai messo le mani in tasca ai cittadini, quando poi si viene a scoprire che in regione si sono fottuti di tutto e di più, insomma, con i soldi, con roba pagata con i soldi nostri, insomma non mi sembra che la Lega non abbia messo le mani in tasca ai cittadini, li ha messe e come se li ha messe, per cui insomma o poverino, non lo so, forse l'età probabilmente, non si ricorda più le cose, ma... Zanzare. Vincenzo da Roma, eccoci qui, Vincenzo. Cruciani, buonasera. Buonasera, buonasera, dica pure. Volevo continuare quell'analisi attenta e profonda di Franco, quel radioascoltatore che era intervenuto, alla quale lei ha dato dell'imbecille. Sì, beh, certo, insomma. Tanto per incominciare voglio condannare tenero e leggero col signor Benissimo, Franco. Lo faccia con me allora. Non lo so, lei non ha manco parlato. Per dire puttanate radiofoniche in diretta, mentre milioni di pensionati sono alla povertà più assoluta. Lascialo parlare. Va bene? No, non ho paura di niente e di nessuno. Quel tirapiedi del suo collega mi può pure intervenire. Io condanno ogni tipo di regime, figuriamoci quello di Mussolini. Allora, ma chi Mussolini se ne frega? Ha fatto anche delle cose giuste in Italia. Sì, ha trasformato una nazione da terriera in industriale. Ecco il coglione. Sì. Ecco il coglione. Aspetta. Lascia parlare, che hanno liberato le gabbie. Ha scatenato di Hitler. Sì. Torniamo ai giorni nostri. Torniamo ai giorni nostri. Parliamo di cose serie. Torniamo a bomba ai giorni nostri. Certo. Parliamo di cose serie. Parliamo del fatto che non hai preso la tua medicina. Aspetta. Parliamo di Dell'Utri, di Berlusconi. Di Cosentino. Di Papa. Come si chiamano gli altri due? Me ne sono dimenticati. Che ne so, con un volo di solo andata per il Kenya. Parliamo di questa gente. Per il Kenya, ma quelli sono contenti di andare in Kenya. Io sono un ex dirigente di Forza Italia. Pure. Sono nauseato. Ma lei Forza Italia le ha dato il cervello? Ha bisogno di qualche cura speciale? Non mi ha dato Forza Italia. Beh, qualcosa le è successo. Avevo creduto in Berlusconi. Adesso Berlusconi deve andare via. Deve andarsene in Kenya con un biglietto di solo andata. Di solo andata. Lei invece deve farsi ricoverare subito. I fondelli, Cruciani. Non ho capito, scusi? Gli italiani, Berlusconi, li ha presi per i fondelli. Vabbè, quello d'accordo. Noi siamo sotto gestione tedesca, Merkel. Sì. Lui giocava col culo della Merkel. Ma questo lo dice. E Merkel ce l'ha messa in quel posto. Ma guardi che lo dice pure Berlusconi adesso, questa cosa qui. Dunque lei è un po' in contraddizione. Dice pure Berlusconi. Le voglio far rilevare che. Però. Le voglio far notare che i servizi segreti ogni giorno gli portavano il rapportino. Sì, lui servizi segreti, dei coglioni. Sì. Ma i servizi segreti Merkel, di che? Di e cosa? Di così, un altro che ce l'ha messo in quel posto. Sono andati in Libia, hanno fatto quello ma lei che lei, hanno voluto. Ma lei che le è successo quando nel periodo in cui è stato a Forza Italia? C'è stato un trauma, ha avuto un problema gravissimo. Ho capito che sono dei ladri. Sì, ladri, ha capito che sono dei ladri. Ladri, Parenzo, fai qualcosa anche tu. Devono andare a casa. Parenzo, no, io voglio dire, sono dispiaciuto. Credo che ci sarà un governo, sì. Come si chiama un questo? Governo politico in Italia. Ci sarà un altro governo, come si chiama? Tecnico, probabilmente. È quello no, sono dispiaciuto. Sotto sì. Dittatura. Lascialo parlare. Quello è, della... è un destino per l'Italia. È quello della 123, sì. Sì, sono dispiaciuto perché nella Camera 123 eravamo passati una settimana fa e avevamo dato un dosaggio di 10 ml. Ora bisogna portarlo a 25 ml, quindi si rimetta sdraiato. E poi avverto io il capo reparto. 25 ml, stanza 14 subito, infermiere no, in corsia. No, 123, 123. Ah, scusa, 123. Vai, infermiere in corsia subito. Si sbagliano, poi è finita. Infermiere in corsia subito. Vincenzo, lei stia calmo, può continuare un attimo a girovagare ancora per un po'. E poi a un certo punto verranno a prelevarla, la portano alla 123. E mi auguro, quelli delle Brigate sì. Rosse, che qualcuno certo. Mi ascolti. Ecco, quindi cominciano a impugnare qualche 38 e ve la piccolo nel culo. Buonasera, Cruciani. Buonasera. Sì, buonasera. Tutto per i lavoratori che muoiono di fame in Italia, grazie di tutto signori. 123, mi raccomando, dosaggio da 123, dosaggio. Beh, danzano come zanzare queste ombre. Beh, chi ti ho chiamato? Chi ti ho chiamato? Ti ho chiamato. Parenzo, di alzare il livello. Uno dei protagonisti della giornata. Una. Protagonista della giornata. Oh, sì. Protagonista male. Assoluta alziamo della giornata. Alziamo un po' il livello perché qui veramente. Assoluta della giornata. Ha fatto diventare la sua trasmissione, che era una trasmissione seria. Una trasmissione. Come dire, in cui si parlava di consumatori, di è economia, di seria, economia reale. Aspetti, io lo dico in senso positivo. Di economia reale, di cose no, vere, ecco, di cose concrete. Ha fatto diventare la sua televisione un po' stribolo come piace a noi. Cioè, no, ha fatto diventare vero. Sì una sorta di caravanserraglio. No, dove ne succedono di tutti i colori, gente che urla, gente che si insulta, gente che si alza e se ne va. Beh, cose che piacciono a noi, trasmissioni vive, vere, trasmissioni fatte con lo stomaco, oltre che col cuore. Mirta Merlino è con noi, buonasera. Buonasera, ma infatti il fatto che mi avete chiamato, ho capito che ho cambiato genere. All'improvviso la telefonata della Zanzara mi ha fatto capire che mi sono riposizionata nel mondo della TV. Ma io allora, un po' che ti osservo, tutta, io un po' che ti tutta, osservo, perché vabbè, io e Mirta ci conosciamo un sacco di anni. Allora, la cosa è questa, e insomma, per risvegliare un po' l'attenzione in questa missione, che era per carità bellissima, eccetera, eccetera, però ci voleva un po' di pepe, ci voleva un po' di casino, ci voleva un po' di bordello. E dunque io da un po' di tempo, non so perché, sono sempre a casa a quell'ora, accendo sulla 7 e vedo l'aria che tira e succede sempre qualcosa. C'è una sorta di imprevedibilità, stile Zanzara. La cosa mi piace moltissimo. Parenzo, tu che dici? Ma io sono eccitato, sono amico e vabbè, tu le devi fare la solita slinguata. Intanto voglio ringraziare la 7 perché manda questa trasmissione. Questa trasmissione, come in onda, sono mamma due mia. Trasmissioni. Ma perché devi leccare sempre il culo alle persone? Me lo spieghi te? Ma pagano lo stipendio. Ringrazio. Posso raccontare una battuta di Parenzo che vale la pena raccontare? Sì, sì, racconta. Una mattina Parenzo viene in trasmissione. Effettivamente capita una mattinata in cui c'era della gente abbastanza surreale. Sì. E Parenzo di suo non è esattamente, come dire, una cioè non è come invitare i galli della loggia, no? No, allora, la fine della trasmissione mi dice... Erano talmente incredibili gli altri ospiti che stamattina io mi sono sentito Roosevelt. Chi c'era? Scili? No, chi c'era? No. C'era Scili? No, c'era, non c'era Scili Potti, poi c'era il signor Trafiletti che appena si sono accese le luci sono detto cretino, ancora nessuno aveva detto nulla. Ma chi è Trafiletti? Quello che è sempre pure a quinta colonna, quello con l'occhio, quello con l'occhio sempre un po' strano. Vi dovete vergognare, ma cioè ancora non è partito nulla, neanche un titolo di testa, niente, subito. Ma comunque, allora, pensavo una cosa, che diciamo, sì, che quella roba dei 300 come 120 ml che date, sì, al signore di prima, sì, la potremmo proporre anche ad Alessandra Mussolini. Oh, ecco, e veniamo al punto. E veniamo al punto. Io, noi, esatto, vogliamo dirimere due questioni stasera molto importanti con Mirta Merlino. Lo vogliamo dire una cosa, che io e Mirta Merlino una volta, tanti anni fa, abbiamo frequentato per qualche giorno, pochissimi giorni, una scuola di giornalismo. Vogliamo, ah, sì, ricordarla ai pochi che sono interessati di questa vicenda. Poi abbiamo preso la tua Vespa e abbiamo capito che imparavamo molto di più andare in giro per Roma, non siamo anche rientrati nella scuola di giornalismo. Brava! Lo vogliamo ricordare. Abbiamo vinto tutte e due un concorso finto e farlocco, ovviamente, alla scuola di giornalismo della LUIS addirittura. Però vincemmo alla grande tutte e due, trattavo, sì, pure farlocco. Ma sì, io dico farlocco così per minimizzare, ovviamente. Però vincemmo questo concorso. A un certo punto entriamo e facciamo qualche giorno di scuola, scuola, sì, di giornalismo. Ogni tanto ci guardiamo in faccia, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E dopo qualche giorno scappammo dolcemente, dolcemente nel senso scappammo di nascosto, e non ci e non ci presentammo mai più. Però non siamo finiti male, insomma, qualcosina, bene, diciamo la verità, qualcosina abbiamo fatto. Vabbè, insomma, io non voglio capire una cosa, da che parte stai tu? Adesso vogliamo dirimere questa questione. Mirta Merlino, la conduttrice del programma L'area che tira, dove oggi si è realizzato il grande scontro tra Andrea Scanzi e Alessandra Mussolini, che a un certo punto si era andata dicendo testa di cazzo a Scanzi, il quale a sua volta aveva detto non ho rispetto né per te né per tuo nonno, con chi sta? Allora, temo di stare con Scanzi, però voglio spiegare perché. Ho capito. Nel senso che il tema è questo: io credo di essere stata molto educata e molto corretta con Alessandra Mussolini. Credo che se uno invita una signora che si chiama di cognome Mussolini, due giorni dopo la dichiarazione del nostro ex premier sulle, sì, cose buone fatte dal fascismo, mentre effettivamente si era appisolato subito prima e quindi io faccio una domandina su cui lei mi risponde, sono questioni familiari, già partiamo malissimo, perché in realtà sono questioni politiche, perché la signora in questione, anche grazie al suo cognome, sta in Parlamento, esatto, adesso sta di nuovo col PDL, si presenta con Berlusconi, quindi c'era tutto il tema. Vabbè, il tema c'era, lei non voleva affrontarlo perché non voleva affrontare questi temi, perché ogni volta dice io no. A quel punto che succede? Che perché lei dice non voglio rispondere, do la parola ad Andrea Scanzi dicendole: Andrea, cosa pensi? Berlusconi in effetti, come sempre, sembra che ci è, invece ci fa, e questa battuta l'ha fatta perché sa che in Italia tanti la pensano così. Andrea comincia a fare un'analisi della situazione, dicendo che Berlusconi era un po' andato quel giorno lì, si appisolava sempre, cosa è vera, l'abbiamo visto tutti che si appisolava, non era, sì, e da lei già si comincia a innervosire, dice Berlusconi è sveglio anche quando dorme, dice la Mussolini, quindi già si comincia a quel punto, lei comincia a dire ma questo chi è, ma chi sta parlando, si sente un po' in sottofondo ogni tanto. Allora io ho detto guardi che Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, insomma glielo presento. A quel punto lei ha detto e lei non sa niente della mia storia. Ora obiettivamente che il ventennio sia stato un periodo nero della storia italiana, è una dittatura. Vabbè, ma quello oggettivamente. Però a un certo punto Scanzi ha detto, Andrea Scanzi ha detto io non ho rispetto per suo nonno e nemmeno per lei. A quel punto lei se n'è andata e gli ha dato della testa di cazzo. Vabbè, lasciamo perdere la testa di cazzo. Però la cosa fondamentale, non ho rispetto, non ho rispetto, o no? Allora, però posso dire una cosa anche lì, cioè su Mussolini, gli storici raffinati si esercitano a fare le rivisitazioni storiche. Dopodiché, sinceramente, che gran parte degli italiani pensi che quello sia stato un periodo maledetto, che si è fatto entrare in una guerra pazzesca, abbiamo perso un sacco di vite umane di italiani, le leggi razziste sono stata una però cosa se uno ti viene a dire se uno ti viene a dire una roba che deve dirlo Scanzi, è abbastanza vero, no, d'accordo, è vero, sì, ma non c'è dubbio, infatti, per carità. Però se uno nella tua stessa trasmissione ti viene a dire io non ho rispetto per tuo nonno che è un assassino, non ho rispetto nemmeno per te, uno al limite può dire si alza e se ne va. Certo, il testa di cazzo. Non me moleste moschino. Certo che Monti i candidati si risceglie quasi con lo stampino in alcuni casi, Ma hai visto la bomba che è scoppiata ora? Che bomba è scoppiata? È la bomba vera, è Boccassini versus Ingroia. Versus Ingroia, sì. E questo è clamoroso. Beh, se tu non sei entusiasta, che ti piace di più sbeffeggiare giustamente che la signora Buitoni, come si chiama Buitoni? Borletti Buitoni. Ilda Boccassini, Ingroia si vergogni, come osa paragonare la sua piccola figura di magistrata a quella di Falcone, una cosa pazzesca. Qui siamo veramente, no? Beh, una bomba, è scoppiata la bomba. Bomba . Pazzesca questa. La Boccassini contro Ingroia. Perché come tu sai, la Boccassini indagò piccola figura di Capaci, tra certo, l'altro. Picco, come ha fatto, tu sai. È stato magistrato antimafia, certo. La sua piccola figura di magistrato a quella di Falcone. La sua la cosa interessante, perché se si fosse limitato a dire Ingroia si vergogni, come osa paragonare la sua vita di magistrato, come osa paragonarsi a Falcone, insomma, non sarebbe... Sì, era una cosa comunque pesante, eccetera. Ma ha detto la sua piccola figura di magistrato, sputtanando anche le inchieste che ha fatto sulla mafia, eccetera, eccetera. No, considerandole poco serie. Diciamola tutta, la sua piccola figura di magistrato, eccetera. Scusa. Vabbè. Domani se ne parla l'area che tira, Mirta, di questa roba qua, sicuro. Ma ancora non l'avevo vista, vi sto ascoltando rapita perché non l'avevo vista. Signor Boccassini, adesso, qualche minuto fa. La bomba, ti ho regalato una chicchetta, ti ho regalato una piccola chicca. Ma che mi hai regalato? C'è sull'agenzia, ma che stai... Ti ho regalato una chicca. Le grandi inchieste di Parenzo ti ha regalato ma una chicca. Ma hai letto sulle agenzie, ero un attimo distratto. Ma quale agenzia? Va bene, questa è la Zanzara. Non hai il senso della notizia, purtroppo. Questa è l'area che tira tutti i giorni. No, basta però, dai, su, non fare la solita marchetta. 800 24 00 24 è il numero per la Zanzara. Fra poco torniamo con voi, c'è con noi Mirta Merlino invece, conduttrice della che tira. Lo faccio io, non ti preoccupare, in maniera molto più normale, molto più gentile, molto più naturale. No, ma va fatto in modo smaccato proprio. Allora, voglio capire una cosa. No, la cosa che... No, le marchette, dice lui. Le marchette. Sì, okay. Le marchette, i salamelecchi, le cose sulla sette, eccetera. Apposità giornalistica. Ecco, appunto, io dico una cosa. Allora, tu dici, ha sbagliato ad andare via, signora Mussolini, no? Sì. O no? Sì. Ha sbagliato andare via. E la testa di cazzo... Ma poi in quel modo, cioè tu poi, secondo me, tu devi metterlo in conto che ci sia oggi una discussione di questo tipo e devi avere un ma po'... Ma gli italiani la pensano come Scanzi, secondo te? Su Mussolini? Guarda, giudicare da Twitter, insomma... Sì, la pensano come Scanzi. È stato un boato. Diciamo che, insomma, gli italiani non vogliono che si metta in discussione il fatto che quel periodo là della storia è stato un periodo terribile. Napolitano, mezz'ora dopo, neanche a farla apposta, ha detto che vuol ricordare a tutti che si parla di un momento di dittatura infame. Cioè, mi pare che, insomma, sul fascismo ormai il giudizio... Ma poi vi siete parlati con la Mussolini, cioè Mussolini? E no, perché lei è scappata via. Poi dopo ho chiesto al mio autore di raggiungerla fuori e lei ha continuato a urlare teste di cazzo. Pure fuori. Ma teste in generale nei vostri confronti pure o solo Scanzi? Ma insomma, a quel punto si era molto innervosita. Tra l'altro, davanti alla sette, forse questo Davide lo sa, staziona un signore con un cane che tutte le mattine viene lì fuori per insultare gli ospiti che gli sono antipatici. Sì. L'altro giorno io uscì con Sgarbi dopo la puntata, lui cominciò a urlare come un dannato. Quella mattina era venuto anche stamattina per insultare la Mussolini, ma era talmente incavolata, era talmente che fumava, che il signore col cane mi ha detto: io poi non mi sono avvicinato, mi ha fatto paura. Quindi persino il molestatore col cane è rimasto impaurito dalla Mussolini, esatto. Che dava della testa di cazzo a tutti. Adesso io voglio capire una cosa, chiamiamola così ci parli, dai, chiamiamola al volo, parlaci. Va bene, parlaci, Mirta. Parlaci tu, guarda, sono Mirta Merlino, eccetera eccetera. Non proviamo a parlarle, sì. Entra tu, quando squilla il telefono entra direttamente tu, senza capito? Parlare del nonno, perché sennò no. E quella si fomenta. Chiarimento in diretta, chiarimento. Chiarimento su quello che è successo. Aspetta. Italiani, aspetta, siamo al top. Pronto? Cercavo Alessandro Mussolini. Chi è? Mirta Merlino. Chi è? Mirta Merlino. Sì, un attimo. La ringrazio. Dopo a un certo punto... Pronto? Dopo... Pronto? Pronto? Sì. Sì, un attimo solo. Grazie. Pronto? Alessandra? Ciao. Sono Mirta Merlino, ciao, buonasera. Mi dispiace per stamattina, mi spiace che è andata a finire così. Ma lo sai che cosa? Io pensavo addirittura che lui fosse un comico, perché vedi, un conto è andare contro Berlusconi dicendo lo fa, ma questo è uno che aggredisce, non è possibile, io non mi faccio dire le cose, e io ti avevo detto non prendo, no, e tant'è che non gli avevo detto niente, anche in studio ho detto, ma io torta rispetto per gli ospiti che sono qui, La tua conduzione doveva dire: senti, questi toni non li puoi usare così, ma chi sia? Però ti dico una cosa, la cosa è partita su Berlusconi, tu sei cominciato a innervosire su Berlusconi, lui ha detto che Berlusconi si era addormentato, cosa vera, cosa vera. Cosa non si può fare, capito? Dopodiché, Alessandra, secondo me era normale che a due giorni da quel tipo di affermazione, tu sei Alessandra Mussolini, che in studio questa discussione non si aprisse, oggi era praticamente impossibile. Va bene, ma io avevo detto la cosa, dico: guarda, a me, io di questo non parlo, è conflitto di interesse, punto e basta. Attacca questo qua a fare questa sbroscia contro Berlusconi fatto male, contro il me, il mio nonno, lo zio, ma no, io non, guarda, senti, lasciamo fare, va, così, lasciamo. Tanto è andato ormai così bene così, sono felice di quello che ho detto, ecco. Cioè, vabbè, fuori, diciamo che la testa di cazzo ce la potevamo evitare, no? No. Perché questo, io non gliel'ho detto davanti alle telecamere, ma io non è mi posso ingoiare gli insulti da uno che non si sa tutti, chi. Però. L'abbiamo l'hanno sentito tutti. Sono contenta, sì. Io che devo fare? Io mica le cose le dico dietro le spalle, che mi vengo insultata da lui. Comunque è chiusa così, dai, è andata, che importa. Va non bene, allora chiusa così, pace fatta. Sì, basta, figurati a me che me ne importa. Tanto lo sai come sono fatta io. Poi quando è alla fine sbraco, perché poi quando è troppo, va bene? Va bene, va bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is. Well you're right, son. Siamo stati fortunati, Siamo stati fortunati che abbiamo fatto una roba. È un po' bella pace di me. Ma sta calmissima stasera. No, invece. No, aspetta, adesso la chiamiamo noi perché sennò è un casino. Aspetta. Sì. Alessandra? Chi è? La zanzara. La zanzara, scusaci. No, non parlo. No, volevo capire se scansi. Ma siamo noi. Ma come non parlo? Ma perché con noi non parlo? Ma tu lo capisci? Lo capisci perché ti abbiamo usato? Vedi, no, non parlo. Dopo tanti anni a fare un programma serio, con me ci parla ancora. Vedi qual è la tragedia? Vedi qual è? No, ricamala un po'. Come si permette di chiuderci il telefono? Ma in faccia, con te ci parla perché? Richiamala. Come adesso, si permette? Adesso non parla più nemmeno con te, lo sai. Ma no? Come si permette di chiudere il telefono in faccia così? Richiamala subito. Che metodi fascisti sono questi? Che richiamala. Adesso non parla più nemmeno con te. Abbiamo rovinato definitivamente il rapporto. No, secondo me pure mi avete rovinato. Era ovvio. Io lo sapevo che venendo da voi qualcosa succedeva. Richiamala un po', però. Ma nessuno mi sbatte il telefono in faccia così. Scusa. Io pensavo che a un certo punto l'avvertissi tu, Mirta. Siamo... Eh no, io pensavo entravaste voi in linea. Invece vi sentivo silenziosi. Dicevo, beh, sono carini, stanno lì in ascolto, non vogliono rovinare l'armonia che si è creata fra noi. Un po' è quello, un po' vedevo che la cosa andava avanti liscia. Però, richiamala un po'. Però dai. Pensavo che a un certo punto dicessi: guarda, che siamo in diretta qui alla Zanzara, perché sennò adesso questa qua si incazzerà come una bestia. No, ma perché? Ma non ha detto niente di particolare, però. No, anzi, è stata molto più carina al telefono stasera di stamattina. Sì. Ha recuperato. Ah, ha detto, però confermo, a testa di cazzo non mi pento. Vabbè, ma insomma, al di là di questo. Quello è un giudizio. Questo è un giudizio. Vabbè. Io sono fatta così, ha detto. No, adesso se la prenderà con quando te. Sbrocco. Tu lo sai come ti devi difendere. M'hanno fregato quei due. Certo. Ho chiamato e mi sono accorta che c'erano anche loro in linea. Sì, è stata tutta colpa di Cucciari. Erano in linea con me, a mia insaputa. Ma tu lo sai, Mirta, che Mirta è stata protagonista di un altro grande, grande giallo della storia italiana. Cioè, era alla villa di Briatore nel giorno in cui c'era pure la Melandri. Quel famoso giorno, la famosa sera del ballo. Ma questo non lo sapevo. Ma come non lo sapevi? No, in realtà è diverso, non era la villa di Briatore. Aspetta, adesso vi racconto. Io ero andato in Kenya con i miei figli, sì. Mio marito, e la Melandri a sua volta era lì con la sua figlia, bimba, e suo marito. Un'altra mia amica con altri due bambini e il simpatico Briatore, che a me mi fa una simpatia enorme in tutto questo, perché tolti i suoi difetti, insomma, essere un po', è un uomo di grande simpatia, di grande generosità, ci invita la sera di Capodanno a fare questo Capodanno a casa sua a Malindi. Noi decidiamo di andare, eravamo tutto un bel gruppo di persone, tutti quanti con bambini, tant'è vero che la foto di Giovanna, non so se l'avete mai vista, ma si vedono due bambini biondi vicino a lei, che sono i miei figli che ballano con lei. E andiamo tutti là, passiamo una serata molto carina, molto normale, zero trasgressiva, con bambini e robine, fine dei giochi. Si ritorna in Italia E tornati in Italia, l'Espresso se ne esce con la storia che la Melandri stava a casa di Briatore ospite. La Melandri scrive una lettera all'Espresso per giustificarsi, già cosa inutile, perché tu a sera vai dove ti pare, non è che giustificare. Per giustificare, non stava ospite da Briatore, però in questo ospite era una parola un po' ambigua, quindi l'ospite era, non era ospite da lui. Tu eri ospite, no? Ma no, nessuno di noi, avevamo le nostre, stavamo a casa nostra, a Watamo, da un'altra parte, eravamo andati una sera a casa sua. Ma perché però dopo si è creata questa polemica? Perché lei non ha mai ammesso... Perché lei dice, non sono mai stata ospite da Briatore, lei intendeva ospite a casa. Ah, okay. Il Briatore a quel punto ha detto, ma come, tu vieni a casa mia, io ti ospito come una regina la sera, e tu vai a dire al giornale che non sei mai venuta. Allora, un'amica di Briatore, dalle mie ricostruzioni Simona Ventura, ma non è detto che sia lei, spedisce ai giornali una foto fatta col telefonino, che è quella che abbiamo poi visto per anni, di Giovanna che balla, e in quella foto appunto si vede lei, i miei figli, e insomma a quel punto scoppia la cosa, la Melandri ha mentito, e il Briatore si arrabbia, perché poi giustamente dice, ma scusa, ma che ti devi vergognare di venire a casa mia? Certo. E dal suo punto di vista lo capisco, perché non abbiamo fatto nulla di male, lui ci ha invitato a una magnifica cena, ma insomma lei però, dove, lei però un cittadino normale ci può andare, perché non c'è nulla di male. Sì, certo. E finisce lì, punto. Cioè, bisogna avere il coraggio di fare la vita in maniera. Cioè, lei che, in che cosa è che ha sbagliato la Melandri? Non ammettere mai che di aver partecipato a una festa? Sì, secondo me, insomma, in quel tipo di partito lì, Giovanna ha sempre avuto il problema di essere considerata una fighetta, non abbastanza di sinistra, non abbastanza. Invece, secondo me, uno diceva, io vado in vacanza dove mi pare, se una sera voglio andare a casa di Briatore saranno pure. E invece, non ha avuto le palle per dire, sono andato a casa di Briatore, allora qual è il problema? Appunto, secondo me è quello. Là sarebbe risolto tutto così. Grazie, a presto. Mirta Merlino è stata con noi, grazie. Va bene, mi raccomando. Ciao. Con la Mussolini, no, facciamo quadrato, qualunque cosa. Succederà un casino. È scoppiata la bomba tra Ilda Boccassini. Usare la parola bomba magari non è proprio il massimo della vita, ecco, In questo caso, perché c'è di mezzo Falcone, eccetera. Appunto. Tra Ilda Boccassini e Antonio Ingroia. Allora, ricapitoliamo. Boccassini si vergogni di essersi paragonato a Giovanni Falcone. Le battute e le velate critiche espresse da alcuni magistrati in occasione dell'inaugurazione, queste sono le parole di Ingroia, le battute e le velate critiche espresse da alcuni magistrati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per la mia decisione di candidarmi sono un copione che si ripete. Fu così anche per Giovanni Falcone. Forse non è un caso che quando iniziò la sua attività di collaborazione con la politica le critiche peggiori giunsero dalla magistratura. Come ha potuto paragonare la sua piccola figura di magistrato a quella di Falcone? Si vergogni, tra loro c'è una differenza palese, grande anni luce. Beh, qui siamo al top, qui siamo al top. Mi entusiasmano queste cose, mi viene l'adrenalina addosso quando sento queste cose. Va ricordato al signor Ingroia che le polemiche quando no, ma poi voglio dire, ma poi di che stiamo parlando? A collaborare chiamato da Martelli. Sì, allora ma lasciamo perdere. Sì, ma tu socialista, no, ma le cose vanno ricostruite bene. Senti, sono le 20:49, non annoiare le persone che sono in macchina o che sono a casa. Perché a me non me ne frega niente della ricostruzione storica di perché non fu nominato Falcone. La cosa più interessante di questa polemica. Lo attaccarono perché va bene, d'accordo, lo attaccarono, certo. La cosa fondamentale è un'altra. La cosa fondamentale è un'altra. È che il signor Ingroia dovrebbe, insomma, dovrebbe essere preparato a queste cose qui. Si può criticare tutto. Cioè, il fatto che lui abbia scelto di scendere in politica è soggetto a critica, è soggetto a polemiche. È normale che sia così. Non è che se uno l'attacca significa che gli vuole far fare la fine di Falcone. Ma di che stiamo parlando? Poi, questo a netto delle dichiarazioni di oggi della Boccassini, quello è un altro discorso. Boccassini non piace Ingroia e non è piaciuto questo paragone con Falcone. Dunque, una volta toccato Falcone, no, è come morsa da una tarantola, no? Sì. Ora, la vera domanda è: quanto costa a Ingroia questa roba qui? Chissà. Ma la noce no. Matteo da Pistoia, Sì. Vada. Buonasera Cruciani, buonasera. Senta, volevo dire il Morettino Parenzo. Sì. Se lui sa un po' di Toscana, sa cosa significa Morettino. Come? Se lui sa un po' di toscano, sa cosa significa morettino in Toscana? Morettino, vabbè, se non me lo dice a me, però. No, non lo so. Vabbè, è un tipo particolare di carciofo. Di carciofo, ecco. Sì. Esatto, lo dico questo, io sono un dirigente del Monte dei Paschi, bravo, sì. Ok? Dovevo fare il salto grosso, fui chiamato, non faccio nomi, sì, fui chiamato da ex amministratori delegati e mi dissero: lei che sponsor politico ha nel PD? E gli dissi: ma io non ho sponsor politici perché vengo da Banca Toscana, quindi, ma lei è di Pistoia, dovrebbe, insomma, parlamentari a Pistoia ci sono. Gli dissi: ma io non lo conosco. Purtroppo davanti a me andarono i due fratelli famosi a Siena, che comandano Siena, sì, di cui uno ora è candidato con Monti. Ma davanti a lei che significa? Ma che c'entra? Aspetta, stai tranquillo. Che c'entra? C'entra adesso, perché il PD dice che non c'entra nulla col Monte dei Paschi. No, però non faccia, fai raccontare Matteo, lascia parlare Matteo. Cacciofi, se no. Allora Matteo, non ho capito, davanti a lei che significa? Che passarono davanti a lei? Passarono davanti a me, pur non venendo mai in banca. Come Vigni, l'ex, e ora ho fatto il nome, ex amministratore delegato, andava sempre a caccia. E in banca non c'era mai. Quando si vedeva era a braccetto no, col presidente. Però scusi Matteo, facciamo, ricapitoliamo. Lei è dirigente attuale del Monte dei Paschi? Sì. Dirigente che significa? A Siena oppure in una filiale? Dirigente, io non le posso dire altro. Per motivi di riservatezza non gli dico altro. Sono dirigente. Va lei bene? È dirigente alla sede centrale? Ero alla sede centrale e poi sono stato, per le mie considerazioni, sono stato dislocato, diciamo così. Cioè, perché faceva delle considerazioni pubbliche contro la dirigenza? No, perché dissi, qui va avanti chi ha merito. Loro mi dissero: se lei non ha un appoggio politico nel PD o di Fondazione Comunista, lei qui non va avanti. Ma chi glielo disse questo? Chi glielo disse questo? Glielo disse l'ex amministratore delegato del Monte dei Paschi, va bene? Cioè chi? Non le faccio il nome, il nome non glielo faccio. Vabbè, ma che va vuol bene? Dire? Uno dice le cose, poi anche... Hai detto prima il nome? No, attenzione, io ho detto che quella persona era diventata amministratore delegato non venendo, ma in banca è andato sempre a caccia. Ma perché adesso lo dice, adesso quello denuncia. Quello che faceva Mussari sapeva tutto, e Banca Italia sapeva tutto. Vabbè, questo è un altro discorso, anche... Matteo, ma che ridicolo, sta dicendo delle cose concrete. Adesso lo dice, adesso lo dice. Prendere il pulso, ha degradato molto dei pacchi a spazzatura, già. Va bene, d'accordo, quello è un altro discorso. Adesso. Però Matteo... Banca Italia, dove hanno i controlli? D'accordo, Matteo... Ma dov'era lei? Le faccio un altro esempio, ci hanno dato un prestito ora, è una buffonata, noi abbiamo un ROE, lo sa cos'è? Il signor Parenzo, il ROE? Sì, però lasci perdere, Matteo, adesso non abbiamo tempo, io voglio capire una cosa. Lei ci dice... hanno dato un prestito al 9 e noi abbiamo un ROE del 1,8. Ma come facciamo a salvarci? Me lo dica lei. Vabbè, infatti e probabilmente ci sarà... Non sa nulla. Matteo... E siamo al PD, l'università. Lo sa chi è il presidente dell'ASL 2 di Siena? La moglie di Enrico Rossi, del governatore. Ma di chi è in mano Siena? Stia tranquillo, ma Matteo. Io voglio ma capire. Vogliamo parlare del buco di 400 milioni di euro all'ASL di Mazza? Matteo, Matteo, voglio capire una cosa. Lei dice: per fare carriera, io sono dirigente del Monte dei Paschi, per fare carriera all'interno del Monte dei Paschi bisogna avere per forza un appoggio politico, carriera interna. Un appoggio politico del PD o di Rifondazione Comunista? A lei che cosa dissero? O PD o Rifondazione Comunista? E davanti o a lei e davanti a lei chi passarono? E passarono i due fratelli famosi a Siena. Chi sono? Mi dica un nome e un cognome. Mi dica un cognome. Comincia con la M, uno ora è nella lista di Monti. Ci sentiamo domani 18:30. Ci sentiamo domani 18:30. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai dello spogliatoio del Milan. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È un giocatore Ambre, però c'ha un modo di fare simpa. Radio 24, la passione si sente.